stare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La Zanzara di Giuseppe Cruciani. Ma meno male che c'è Carla Bruni, siamo fatti così, salvo o non salvo così, che bella Carla Bruni, se si parla di te il problema non c'è, io rido. Iniziamo così, caro Parenzo, con Cristicchia e Carla Bruni, che intervenne in una trasmissione di Fabio Fazio non più tardi di un anno fa, adesso non ricordo la data esatta, anzi la ricordo, il 25 gennaio del 2009, dicendo: non ho avuto nessun ruolo nella vicenda Battisti. Eccola qui, ve la servo. Hai avuto un ruolo in questa vicenda? Assolutamente mai. Sono molto sorpresa che i media italiani possano pensare che io ho avuto un ruolo in questa cosa. Questa cosa, la non estradizione o l'estradizione di Battisti, è una cosa del governo brasiliano. Io non mi permetterei mai, prima di tutto non ne ho l'ideologia, non ho mai voluto difendere Cesare Battisti, non mi viene neanche in mente. Sono contenta di potertelo dire, di poterlo dire insomma anche agli italiani, anche alle vittime del terrorismo degli anni di piombo. Non l'ho mai fatto, non lo farei mai. Per nascondere quello che c'è dietro, basta aprire bocca e dargli fiato. E senti invece, naturalmente poi la notizia è da verificare, da controllare, è sempre la parola di un cittadino italiano, che vale comunque come quella di Carla Bruni, come evidente, si chiama Berardi ed è il presidente dell'associazione delle vittime del terrorismo, associazione che si chiama Civitas, eccetera eccetera, un tipo piuttosto bizzarro, che comunque ha detto una cosa, ripeto, da verificare, l'ha detto oggi a Sky TG24 pomeriggio, trasmissione dove sono stato ospite, trasmissione condotta da Paola Saluzzi, su Carla Bruni. Senti, tutto il nocciolo della questione è proprio Carla Bruni, che è intervenuta, queste sono le sue parole, naturalmente io non ho testimoni perché eravamo in uno studio suo privato, è intervenuta presso il presidente Lula chiedendo un favore personale di proteggere Battisti, perché lei si sentiva in obbligo. Mi ha pregato di non dire nulla di questa vicenda. L'ha pregata di non dire questa di cosa, non dire in che senso? Cioè di non colloquio, dire il colloquio. Fra me, lei e il segretario del presidente Sarkozy. Non ho la registrazione, ma mi assumo tutte le responsabilità di quello che sto dicendo. Non l'ho detta, ma è arrivato a questo punto che tutte le speranze sono perse. E poi a chiusura di tutto questo, caro Parenzo, non si può che ricordare una cosa spettacolare, quello che è accaduto ieri sera qui alla Zanzara con Mario Borghezio. Mario Borghezio, via. Viva la Padania, l'Italia non conta un cazzo. Non ridere. No, veramente. Come sempre essenziale. Eh sì, sintetico. Era il nocciolo delle cose proprio. No, l'Italia, detto con diciamo il massimo rispetto per tutte le autorità civili, penali, eccetera eccetera, religiose, civili, sacre, eccetera, non conta un cazzo. Questo è quello che vede l'europarlamentare Borghezio dalla sua visione europea. Non contiamo un cazzo. La cosa straordinaria è che poi ha detto, tenendo conto, rispettando tutte le autorità civili, militari, politiche, dice eccetera, sempre le cose più terribili, dicendo: ma si è detto con il massimo rispetto, lei è un bastardo, una merda, un cretino. Si è detto sempre con il massimo rispetto, comunque grandissimo. Allora, eleganza piemontese, capito? 800 24 00 24, questa naturalmente è la Zanzara, se non me ne siete accorti, in diretta da Milano, Giuseppe Cruciani, da non so dove, questa volta credo Roma, David Parenzo. No, Siena, sono a Siena. Ancora? Fino a venerdì. Fino a venerdì. Una cosa indegna, le vacanze lunghe come l'80% di quelli che stanno a Milano, una Milano deserta. Mario, provincia di Catania, primo ascoltatore della serata, buonasera. Ah, buonasera Cruciani. Ci dica subito qualcosa di frizzante. Rapido, rapido. Ieri ho oggi. No, rapido, lei, interventi subito. 24. Sì. È intervenuto anche l'ineffabile ministro La Russa. Che ha detto La Russa? Che ha detto La Russa? Di tutti. E ha detto due corbellerie che fanno storie. Mi dispiace che lei non sia intervenuto così come fa. Con ok, mica conduco io la trasmissione. Mica conduco io la trasmissione. La di Prodi di quello che è venuto. E secondo, che il Brasile è un paese comunista. Ora non mi risulta che queste. No, lei ha ragione. Lei, anche se era ospite, non è intervenuto. Ecco, io mi sarei aspettato che lei, con la sua, visto che lei è così bravo, anzi bravissimo, il miglior conduttore che io mai conosca, non sia caduto a dire. Avevo pensato che lei intervenisse perché per un momento ha chiesto a lei, guarda, ora dice questo, invece non ha detto questo. Guarda, senta, Mario, lei ha perfettamente ragione sul ruolo di Prodi. La Russa ha esagerato dicendo che il governo Prodi è stato immobile, non ha fatto nulla, eccetera eccetera, ma quella fa parte della propaganda politica. La seconda cosa, effettivamente La Russa se n'è uscito, ma sai, io là facevo l'ospite, non è che posso intervenire sempre, anzi sono intervenuto un po' troppo rispetto al solito, facendo poi delle domande alla Russa, allo stesso Berardi sulla questione di Carla Bruni. Però devo dire la verità, questa cosa del Brasile paese comunista è stato curioso, perché poi La Russa si è corretto, cioè governato dalla sinistra, cioè ha detto Battisti è scappato dalla Francia verso un paese comunista, un paese poi ha detto governato dalla sinistra. Però è vero, lei è stato molto attento, Mario, mi complimento, perché è così. La Russa ha detto a un certo punto il Brasile è paese comunista, voleva dire probabilmente paese governato da un partito in cui c'è un partito al governo che è un paese erede della tradizione di sinistra, che poi non è vero che è un paese che è un partito erede della tradizione comunista, in realtà è il partito dei lavoratori, che è un partito sui generis. Mario? Sì. Cosa vuole che le dica? Non ho rimproverato alla Russa questa cosa, ma non è che si può intervenire su tutto. No, siccome, guarda, pronto, sono in linea? Sì, è in linea. No, siccome la Russa praticamente, fra altre cose, è esperto di terrorismo, perché non dobbiamo dimenticare che quando è morto il famoso agente Marino, sì, era nelle seconde file o nelle terze file, e allora di questi di terrorismo lui ne sa bene, benissimo, dare il terrorista a tutti, lui non era terrorista. E poi i suoi amici dell'MSI di allora, ma quanti ammazzamenti hanno fatto? L'hanno fatto tantissimi. Vabbè, adesso Mario, ammazzamenti quelli dell'MSI, non esageriamo. Va bene, grazie Mario, lei è stato molto attento, soprattutto su questa cosa del Brasile paese comunista, che è curiosa, e dopo la faremo ascoltare. Via. Hai finito il tuo lavoro, hai tolto trucioli dalla scocca, è il tuo lavoro di catena che curva poco a poco la tua schiena. Allora, questa mattina, caro Parenzo, ho dato una lisciatina, ho dato una ripassatina con la cera lacca al mio busto di Marchionne, che tengo gelosamente a casa. Cioè, ho dato una piccola ripassatina, l'ho pulito, era un po' impolverato perché non ero a casa da una settimana, dunque certo. Ci ho messo un po' di cera lacca, l'ho modellato bene, è venuto, lo sai che non è venuto niente male questo busto? Immagino, lì, perché i radioascoltatori ormai lo sanno, tu sei un collezionatore di busti, sì, e ultimamente te ne sei fatto fare uno ad hoc dopo la vertenza Pomigliano, apposta con il... Esatto, hai ragione, italo-canadese. Fai bene a ricordare questa cosa qui, cioè che io sono un collezionista di busti, naturalmente ho busti di Mussolini come busti di Stalin, come busti di Mao, cioè bipartisan da questo punto di vista, trasversale, e però mi sono fatto fare da un tizio di fiducia che conosco, per una somma che non rivelerò mai, il busto di Marchionne. Busto di Marchionne, che naturalmente ho messo in prima fila all'entrata proprio di casa, c'è un piccolo baldacchino lì, ho messo così appena il benvenuto, così esatto, così uno entra dentro casa e c'è il busto di Marchionne di fronte. L'ho pulito questa mattina molto bene, soprattutto dopo aver sentito le parole di Marchionne rilasciate a qualche quotidiano. Col 51% dei no a Mirafiori ritiriamo l'investimento. Qualcuno parla di ricatto, ma quale ricatto, dico io. Nelle trattative con i lavoratori Palazzo Chigi ci ha dato il giusto appoggio. Le firme degli operai al giornale, un riconoscimento. Questa è l'intervista al giornale, che titola La svolta del lingotto. Piccolo ricattino. No, ma tu puoi dire che è un piccolo ricatto. Facciamo no, anche legittimo, in un momento in cui bisogna cambiare le forme dei contratti, bisogna essere più flessibili. Però non è che uno improvvisamente può dire fate come dico io, oppure dall'oggi all'oggi domani me ne vo. E certo che può fare così. Le regole sono proprio sono. Ma dove vai? Le regole sono esattamente queste qua invece. Con tutti i soldi che lo Stato nel corso degli anni ha dato, non a te. Ma non c'entra niente. Questo è benaltrismo. Le responsabilità delle aziende, devono rimanere, devono produrre con costi più bassi, rispettando i diritti dei lavoratori. Però non è che uno può dire prendo me ne vado così. Ma secondo me invece deve fare proprio così. Firmi? Siete d'accordo? Sì. No, altrimenti Serbia, Brasile, eccetera. Polo, numero uno assoluto, Marchione, sentiamolo. Se vince il no con il 51%, la Fiat non fa l'investimento a Mirafiori. La gente si deve pure impegnare a fare delle cose, non posso costringere io a lavorare in fabbrica. No? Non posso costringerli a lavorare in fabbrica, eccezionale. Poi con questo accento un po' francese, un po' canadese, un mezzo italiano, svizzero. Ma il Khan che fine ha fatto? Il giovane Yacchi, ad esempio. Vabbè, il silenzio dei proprietari di quell'azienda. Ma è come no? Silenzio? C'è uno che comanda d'accordo con i proprietari, dunque è così. Ho capito, ma il presidente, ti immagini l'avvocato, come avrebbe gestito questa grande vertenza? Non interpelliamo Albertini, vogliamo interpellare il nostro amico Albertini per fare l'imitazione dell'avvocato, no? No, per carità. Sempre Marchione, avanti anche senza la Fiat. Vediamo la Fiat come è capace di produrre le vetture con o senza Fiat. Ricordo sarà presa con la maggioranza dei sindacati, no? Quindi non c'è niente da modificare. E sempre su questo argomento un bel duello tra Cremaschi e Pirani, che è il segretario confederale della UIL. Vi dovete vergognare, dice Cremaschi. Io mi ricordo un'altra quella di Trentin, di Pio Galli. Ma io di mi ricordo una UIL e una CISL che si sarebbero vergognati di firmare un accordo che escludeva gli altri sindacati. Voi siete dei provocatori, volete i lavoratori fuori dalle fabbriche per fare il diritto e giustificare di la trasformazione di un sindacato in un movimento politico estremista contro i lavoratori, contro l'occupazione. È quello, vi dovete vergognare. Berlusconi è che l'Italia non conta un cazzo, questa è, scusi l'espressione, io sono un po' terra terra, non sono un fine politico come quelli che vengono alle vostre trasmissioni, già lo sapevo prima, ne sono convinto, l'Italia non conta un cazzo e questa questione lo dimostra in maniera inconfutabile, e l'Italia non conta un cazzo, meglio la Padania. E va bene, così 800 24 00 24, questa è inconfondibilmente la Zanzara, caro Parenzo. Luigi da Milano, 800 24 00 24, vi ripeto il numero all'infinito stasera perché voglio sentire molti ascoltatori, poi gli ospiti, ci sarà tempo fino alle 9. Luigi, prego. Buonasera. Dica Luigi. Proprio su Borghezio. Siamo qui. Basta, siamo stufi. In più si lamenta sempre Padania qui. Ma i soldi che prende, chi è che glieli dà? L'Italia? Luigi, però non dica cose scontate, non sopporto più Borghezio. Però allo stesso tempo, ma perché continuano a farlo parlare? Poi si lamentano odio, gli mettono le bombette nelle sedi della Lega. Ma dai, c'è da gente, basta, siamo stufi. Io sono meridionale, sono qui a Milano a lavorare, pago le tasse e tutto, e ancora devo sentire sta gente. Sono stufo di sentirla. Fino a quando li votano li deve sentire, amico mio, è la democrazia. Lo so. Però siamo stufi, onestamente, sono io, ho 35 anni, ho due figlie, sto crescendo, tirando sui bambini, onestamente mi viene, certo, mi viene sconforto. Ma non è che deve prendere cognizione come babysitter, però, scusi, cioè. No, per l'amore. No, quindi l'accetta fa crescere i bambini, non è che fa crescere, neanche io faccio crescere mia figlia con Borghezio, per carità, voglio dire, però non è che mi dà fastidio sentirlo. Nemmeno con Ferrero, però. Neanche con Ferrero, c'è la via di mezzo. Va bene, Luigi, lei è stufo e la ringrazio di questa telefonata, la ringrazio lo stesso, è stufo, però ogni tanto Borghezio tocca sorbircelo così. guadagna, l'Italia non conta un cazzo. Traffico, a tra poco. L'ambulanza va mentre la città finalmente sa che mostro sei. Tu pietà non hai. L'ambulanza va. E siamo qui con Davide Parenzo in collegamento dal Granducato di Siena e Giuseppe Cruciani in diretta dagli studi di Via Monterosa a Milano. 800 24 00 24. Sai qual è però la cosa che mi ha stupito e che mi ha colpito più oggi, al di là della vicenda Battisti, che insomma è quella che è ormai, ma siamo qui sempre a commentarla, per carità, con tutte le novità. Oggi ci sono state le varie manifestazioni a Milano e a Roma, che io trovo assolutamente inutili, che non incideranno assolutamente, però naturalmente è legittimo farle. Non è che cambio idea sulle manifestazioni perché c'è la manifestazione pro Battisti e contro Battisti. Onore, questo ti fa onore. Assolutamente, io le trovo assolutamente. Tra l'altro, in queste manifestazioni, se notate, la presenza forte è quella dei partiti più o meno della destra, chiamiamolo così, no? Il che mi colpisce, perché su queste, anche su questi temi l'Italia è totalmente militarizzata in due blocchi. A parte la partecipazione di Di Pietro, anche fischiato ingiustamente. Beh, qualcuno del PD anche c'era. Sì, no? Però sono manifestazioni targate centrodestra, quella su Battisti. Sì, sia a destra, sia a Milano che a Roma. E questo mi mette un po' tristezza. Sì. Cose che dovrebbero essere assolutamente bipartisan. Il fatto che il segretario del Partito Democratico, pure Bersani, non si sia espresso su questa vicenda. Ma comunque. La notizia che mi ha colpito però viene dalla Sicilia, ma viene da due quotidiani, credo, La Repubblica e La Stampa. 5.000 nuove assunzioni, questo è il vero scandalo dell'Italia, 5.000 nuove assunzioni nella sanità, e appena sbloccano un'altra piccola legge che chiamano poi di stabilizzazione, altri 23.000. Questo è criminale, si può usare questo termine alla radio? Sì, sì, devi usarlo. Criminale. Alla fine di questa giostra, sempre secondo calcoli che poi bisognerà verificare naturalmente, un siciliano su cinque lavorerà nel settore pubblico. Ecco. Un siciliano su cinque! Ecco. Un siciliano altro su cinque! Un esercito di ambulanze. Matteo ci chiama da Milano, buonasera. Pronto? Dica. Buonasera, senta, faccio un'anticipazione. Io sono tendenzialmente, storicamente centrosinistra. Sì. Sono garantista e vorrei vedere Battisti in prigione. Sì, ma questo qua non mi scandalizza. Qualsiasi persona ragionevole, anche se di sinistra, anche se Battisti faceva riferimento ad un'ideologia, chiamiamola così, di sinistra o comunista, ma non c'entra nulla, non dovrebbe avere dubbi su cose di questo tipo. Sì. Oppure se ce li ha, dovrebbe ben argomentarli. Con questo mi rivolgo a Saviano, a Bauro, a tutti quelli che magari hanno dei dubbi dentro, ma non hanno il coraggio di tirarli fuori. Perché non è che sia contrario al diritto il fatto di battersi per Battisti, però bisogna argomentare. Cioè bisogna dire, io non sono d'accordo con perché in realtà Battisti fu condannato per questo, i processi, qui non si può restare nel mezzo, ha capito? No, ma io sono garantista, quindi esiste una verità processuale e mi dispiace che non venga, cioè che sia disattesa. Non è che sono felice se Battisti va in galera, mi dispiace che una verità processuale venga disattesa. Tutte le volte, sia per chi, non solo per il caso Battisti, insomma, ecco, è quella che dovrebbe suscitare manifestazioni e indignazione. Quando la giustizia in Italia viene disattesa, bisognerebbe arrabbiarsi un po' tutti. Qui c'è la tesi che sentiremo, Matteo, che sentiremo più avanti, di Massimo Fini, che abbiamo invitato, il quale sostiene che siccome il Presidente del Consiglio dice che le cose più terribili sulla magistratura, perché il Brasile dovrebbe ridare indietro Battisti ad un paese i cui vertici istituzionali considerano la magistratura una iattura, eccetera, eccetera. È un ragionamento che dal punto di vista formale, dal punto di vista quindi letterale, non fa una grinza, però si sfugge al nodo della questione, che non ha a che fare con quello che Berlusconi pensa dei magistrati in Italia o con l'ordinamento della giustizia in Italia, ma con i veri motivi per i quali Lula non dà Battisti al nostro paese, che non hanno niente a che fare con la considerazione che ha Lula della magistratura italiana. Lei ha parlato, se mi permette, la cosa, io ho sentito anche ieri, tra l'altro ho sentito anche l'intervento di Ferrero, che da elettore, diciamo, di centrosinistra moderato, non condivido nemmeno nelle interpunzioni, ha tutto il legittimo motivo per dire quelle cose, ma non condivido assolutamente nulla, neanche le pause. Vabbè, detto questo, le volevo fare una domanda, perché anche nell'intervento di ieri mi è sembrata la sua posizione un po' debole. cioè nelle motivazioni per cui uno Stato sovrano come il Brasile, prima la Francia, debba come dire, tenersi un condannato per quattro omicidi. Per carità, la dietrologia, il complottismo, adesso lei mi bastonerà come giustamente fa tutte le volte, però mi sembra un po' strano, cioè ho come la sensazione, ed è solo una sensazione, non ho prove chiaramente, che questo signore, che è un signor nessuno ed è un condannato, insomma tutto sommato, abbia in mano qualche jolly per riuscire a svicolare a destra e a sinistra. Possibile che un, cioè se io avessi fatto una roba del genere, ma un Lula che prende la briga di dire a uno Stato italiano no, non ve lo ridò, a me sembra, cioè un po' mi puzza, poi per carità sarò io che sono deviato, avrò la mente, però mi sembra che si sia scavato molto su questa cosa qua, ecco, tutto lì. No, guardi Matteo, naturalmente per carità i suoi dubbi sono legittimi sul fatto che Battista abbia qualche carta in mano dal punto di vista, come dire, delle rivelazioni che può fare per ricattare qualcuno. Ora, oggettivamente, credo che se avesse molte carte in mano dal punto di vista personale, di cose che sa, non sarebbe nemmeno stato arrestato dalla polizia brasiliana nel marzo del 2007. Per cui non credo che la questione sia questa. È che le persone anche casualmente a un certo punto diventano oggetti del contendere tra stati, diventano dei simboli, delle battaglie, al di là della loro consistenza, al di là anche di quello che possono poi oggettivamente contare dal punto di vista politico. Matteo, la ringrazio. 800 24 00 24, caro Parenzo, direi di andare sempre a Milano, ci sono molte telefonate da Milano questa sera, da Andrea, prego. Direttore, buonasera. Milano del direttorissimo, direttore mi offendo, direttorissimo. Mi perdoni, chiedo vedi. Ma la cosa che volevo chiedere su questa storia del direttorissimo, mi scusi Andrea, Parenzo, tu sai se era una delle intercettazioni di Berlusconi con Sacca, eccetera, perché magari c'è in audio questa cosa, direttorissimo. Sarebbe sì, fantastico. Dovrebbe esserci, cioè, ma riguarda, io credo che non fosse solo con Sacca, ma credo con Minzolini. No, con Minzolini sicuramente l'intercettazione. Ah sì, sì, all'epoca di Saccani, quando Sacca era, sì sì, per quella famosa vicenda sulle fiction, la produzione. Vabbè cercheremo. Andrea, prego. Allora, direttorissimo, detto che appunto Milano deserta e quindi chiamano tutti da Milano, appena citato questa cosa, che tra l'altro confermo in pieno, e Milano è bellissima con la gente che stupenda. Vivibile, si può usare la bici, la macchina. Oggi ho fatto il tragitto da Sky, che è a Lambrate, più o meno dalla stazione di Lambrate fino a qui dall'altra parte di Milano, allo stadio, a Piazzale Lotto, in 17 minuti, una cosa favolosa. Che bella, 17 minuti, sì. Un'ora e 17 di solito, invece 17 minuti in una giornata così. È così. Comunque, vado alle ciance. Io innanzitutto complimenti veramente dal cuore, perché io credo che se ci fosse il Nobel per l'invenzione di un format radiofonico televisivo che dir si voglia, la Zanzara avrebbe vinto non un'edizione ma probabilmente di più. Io le dico, sono uno assolutamente molto verde in fatto di politica, non ho mai seguito per mancanze mie, per mancanza di interesse, per mille motivi. Beh, non ci faccia arrossire adesso, Andrea. No, ma assolutamente sono complimenti del tutto disinteressati, ci mancherebbe anche. Ma quello che voglio dire è che mi diverto un sacco, perché poi il discorso è questo panorama politico di cui ovviamente tanti ascoltatori che chiamano si arrabbiano, come il primo che ha chiamato da Milano, Luigi, credo, che ha detto basta, non fate più sentire Borghese. Ma perché? È l'uomo di Colombo della storia, è fantastico. Cioè tutto quello che succede in Italia, a qualsiasi livello, statale, governo, sanità, basta che lei apre un giornale, io infatti la invidio tantissimo perché fa un lavoro a parte che è meraviglioso, ma in generale le fonti, cioè il materiale da cui lei prende, non voglio sminuire la preparazione della trasmissione, scalette e quant'altro, tra l'altro io faccio un lavoro simile con molto meno interesse, come dire, generale, perché faccio giornalista sportivo, per cui mi occupo di cose molto più futili, come lei ben sa, visto il suo tifo conclamato e dichiarato, ma il concetto è fantastico, lei basta che legge un trafiletto tipo quello della sanità in Sicilia, è fatta, è già un minuto e mezzo, tra l'altro complimenti anche al suo ospite che è assolutamente sempre impeccabile, e diventa un siparietto meraviglioso, ma tra l'altro il bello è che non è demenziale. Cioè la demenzialità non viene dalla vostra interpretazione dei fatti, sono i fatti che sono demenziali, è la realtà, è la realtà incredibile, la realtà. realtà è il fatto di avere una trasmissione radiofonica, io dico purtroppo anche se amo la radio, ma questa è una trasmissione che dovrebbe essere alle 20.45 su Rai 1, mi perdoni. Ma vabbè, io adesso, al di là di tutto questo, se no andiamo su argomenti poco interessanti per il grande pubblico, allora cosa ci voleva dire? Beh, commentino rapidissimo sul suo intervento oggi nell'intervista, io francamente non ho capito niente neanche lì. Cioè, questo signore, mi può ricordare il nome? Chi? Il signore che ha parlato, ha citato la... La Bruni? La Bruni, esatto. Si chiama Berardi dell'associazione, non so... Mi entrano i nomi da una parte e mi entro dall'altra perché sono talmente tanti attori che me li perdo. Praticamente anche questo intervento qua, fantastico, però non capisco la situazione. Cioè, perché esce fuori questa cosa in questo momento specifico e... Carla Bruni, a chi viene in tasca qualcosa da questa dichiarazione? È una cosa fatta. Vabbè, ma non è che ci sia solamente l'interesse in questo momento che per qualcuno a far uscire fuori. Ha stupito anche me, devo dire la verità, perché Berardi andò a trovare questo signore, rappresentante di un'associazione di vittime, eccetera, presidente di un'associazione di vittime, andò da Carla Bruni in occasione della vicenda di Marina Petrella, non so che altro, e ottenne udienza dalla stessa Carla Bruni perché insomma, perché in qualche modo la presidenza francese doveva incontrare i familiari delle vittime italiane e poi si è tenuto dentro per quasi 2 anni ormai il fatto che Carla Bruni gli avrebbe rivelato in camera caritatis di essersi rivolta personalmente a Lula per proteggere Battisti. Ora, la mia opinione, detto con tutto il rispetto, è che Berardi abbia capito male. Poi più tardi lo sentiremo. Insomma, una cosa del genere, che Carla Bruni. Ma che interesse avrebbe? Adesso non lo so, per poi la mente umana, figuriamoci, è capace di qualsiasi aberrazione. Ma che interesse ha la signora Carla? No, questo no, sull'oggetto io sono d'accordo. Cioè, interesse ha? No, come che interesse? Ha un interesse. Perché si sarebbe dovuta spendere per questa roba personalmente? No, secondo me lo ha fatto, che poi lo ha rivelato a Berardi, non è ma così. Ma io non credo neanche che l'abbia fatto. Cioè, io penso, frega, io penso di sì, ma questa è la mia opinione, non suffragata da nulla, devo dire la verità. Da nessun tipo di prova, però secondo me lo ha fatto semplicemente per una questione di amicizia. Guarda che in questa vicenda le amicizie contano molto. Di amicizia con Battisti? No, di amicizia con Fred Vargas. E con questi mondi? Con questi mondi, esatto, brava. Il bravo, filosofo? Anzi. Esatto. Non lo so. No, questa è la mia opinione, detto questo. Siccome non ho nessuna prova, la dico come la butto lì come argomento di discussione, ma non c'è nessuna prova. Certo, il fatto che Berardi abbia detto oggi abbia pronunciato questa frase mi ha fatto pensare. Ripeto, io nonostante il fatto che ci crede eccetera, considero e continuo a pensare che Berardi si sia sbagliato, abbia capito male, perché che la Bruni abbia fatto a lui una confessione lì, guardi, sì, signor Berardi, mi sono spesa per Battisti con Lula, insomma, voglio dire, insomma, queste cose non si confessano magari neppure al giornalista più amico, forse nemmeno al marito. Va bene, dobbiamo chiudere come senti dalla canzone, dalla musica, anzi 800 24 00 24, ci sentiamo dopo il giornale radio delle 19. Eccoci, caro Parenzo, 19:16, riprendiamo con la zanzara, 800 24 00 24, Parenzo in collegamento dal Granducato di Siena, Cruciani invece in diretta dal Regno Lombardo-Veneto, cioè dalla sede del Sole 24 Ore qui via Montrosa a Milano. Dove andiamo? Direi a sentire i titoli del TG3. Napolitano sulla Fiat, confronto duro, serve un dialogo più costruttivo, impegno a rivedere le regole della rappresentanza. Mirafiori, la FIOM boccia la proposta CGIL, no a firme tecniche e incontra i leader dell'opposizione. Il PD saggio l'invito del Quirinale al dialogo. Berlusconi solo chiacchiere, le voci di lite con Tremonti. Bossi, prima il federalismo, poi si vedrà se il governo può andare avanti. In piazza per l'estradizione di Battisti, è un criminale, ma i nostri buoni rapporti col Brasile non cambieranno, dice il Premier. A dicembre 2010 inflazione quasi raddoppiata, il livello più alto dal 2008. RC Auto, prezzi inammissibili, dice il ministro Romani. Mio figlio aggredito solo perché gay. Il governo approvi presto una legge contro l'omofobia. Al TG3 l'appello del padre del ragazzo ferito a Roma. E un uomo perde 300.000 euro al gioco per l'effetto collaterale di un farmaco che induce all'azzardo e denuncia la SL della Versilia. On me dit que nos vies ne valent pas grand chose, elles passent en un instant comme fanent les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos chagrins il s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que... Che voce vellutata quella di Carla Bruni, caro Parenzo. Che meraviglia, questo dovrebbe fare cantare. È bravo. Occuparsi bravo, di cose che non le competono. Hai detto una cosa. Farsi fotografare, cantare. Questo. Bravo, bravo, bravo. Recitare, recitare, certo, ma andare in giro a fare. Se poi è vero che l'ha fatto, insomma, a salvare i criminali, sempre. Mi pare veramente. Però c'è una cosa che mi dà ancora più noia, francamente. Cosa che ti dà noia? Mi manda i matti, come dicono in Toscana. Manda i matti proprio. Cosa ti manda i matti? Mi manda i matti vedere che il governo scende in piazza, esponenti del governo scendono in piazza davanti al consolato all'ambasciata del Brasile per dire vergogna, vergogna, vergogna. Sì. Esponenti del governo. E poi però il Berlusca stesso dice sì, però i nostri rapporti rimangono sempre ottimi. Bravo anche qui, bravo anche, doppio vado bravo. Vado ai matti. Mi mandano ai matti. Bravo, c'è una contraddizione evidente, non c'è dubbio, tra lo sbraitare e lo scendere in piazza, poi giudicatelo come volete, lo sbraitare non in senso negativo, di alcuni ministri, per esempio il sottosegretario Santanchè oggi, insieme a Torreggiani, militante del movimento della Santanchè, che dicono vergogna il Brasile, vergogna eccetera, eccetera. Però i rapporti restano gli stessi. Berlusconi su questo, cioè sui rapporti... È un'ipocrisia pazzesca proprio. Che non cambieranno, via. Il Brasile è un paese a cui siamo legati da un'antica e solida amicizia. Ecco, questo fatto non riguarda i nostri rapporti tra due paesi. È una situazione che riguarda un caso di giustizia ed è per la giustizia vera che noi ci battiamo, al di là di qualunque altra considerazione su dei rapporti che sono quelli che conoscete e che non cambieranno a causa di questa situazione. Ma cosa vuol dire che non c'entrano i rapporti tra i due paesi? Devono centrare i rapporti. Infatti non capisco, non è che la decisione l'ha presa la Foglia di Sao Paolo, un giornale brasiliano. La decisione l'ha presa lo Stato brasiliano, il paese Brasile, non il brasiliano. Ma i nostri rapporti rimangono uguali. Però i rapporti rimangono uguali. E allora che cagnara facciamo se i rapporti rimangono uguali? Sotto l'ambasciata brasiliana a protestare. Cioè, mi va il sangue al cervello, c'è delle regole. Se sei all'opposizione fai l'opposizione. Se sei il governo, non puoi fare il governo e anche l'opposizione, protesti sotto e sopra c'è quello che parla con l'ambasciatore del Brasile, ma non è possibile. Sentiamo Carla Bruni però, Carla Bruni, è il collegamento? La facciano Carla? Sentire, beh sarebbe fantastico, il collegamento con Carla Bruni sarebbe strepitoso, ma la Zanzara non può arrivare a tanto, naturalmente. Carla Bruni, sono alto come Sarkozy, se ci può arrivare Fabio Fazio, anzi ci arrivò Fabio Fazio che gli fece la domandina che tutti quanti noi volevamo sentire, la fece, ma lei ha qualcosa a che vedere con la vicenda Battisti, poi si fermò lì, Fazio, però la fece. Hai avuto un ruolo in questa vicenda? Assolutamente mai, sono molto sorpresa che i media italiani possano pensare che io ho avuto un ruolo in questa cosa. Questa cosa, la non estradizione o l'estradizione di Battisti è una cosa del governo brasiliano. Io non mi permetterei mai, prima di tutto non ne ho l'ideologia, non ho mai voluto difendere Cesare Battisti, non mi viene neanche in mente. Sono contenta di potertelo dire, insomma, anche agli italiani, anche alle vittime del terrorismo degli anni di piombo. Non l'ho mai fatto, non lo farei mai. E oggi le rivelazioni del nostro amico Berardi, risentiamole. Berardi su Carla Bruni. Tutto il nocciolo della questione è proprio Carla Bruni che è intervenuta, queste sono le sue parole, naturalmente io non ho testimoni perché eravamo in uno studio suo privato, è intervenuta presso il presidente Lula chiedendo un favore personale di proteggere Battisti perché lei si sentiva in obbligo. Bisognerà vedere. vedere come loro decidono di centro-sud e come decide di organizzarsi. Per me può continuare a chiamarsi Italia, avere il suo Presidente della Repubblica, eccetera, ma noi siamo Padania, che problema c'è? Ma scusi, la Lettonia, l'Estonia e la Lituania 10 anni fa erano prigioniere del carcere. No, l'Italia, detto con diciamo il massimo rispetto per tutte le autorità civili, penali, eccetera, eccetera, religiose, civili, sacre, eccetera, non conta un cazzo. Questo è quello che vede l'europarlamentare Borghezio dalla sua visione europea. Non contiamo un cazzo. 800240024 Luca da Torino. Luca, non ridere, non ridere. No, Luca, ogni volta che lo risento mi eccito. Io mi eccito. Anch'io poco, mi eccito come un pazzo. Luca da Torino, buonasera. Va proprio a pennello risentire Borghezio, perché in effetti ha ragione, voglio dire, chi è che darebbe credibilità all'Italia, che quindi non conta niente, con una persona come lui che ci rappresenta? Onestamente parlando, uno che se ne esce in questo modo, mi chiedo, cioè, secondo lei Borghezio è la fotografia dell'Italia che non conta nulla? Ma non è questione che della fotografia, è questione che comunque è un europarlamentare. Io vorrei essere una sì, però non esageriamo, se non è che se uno fa l'europarlamentare è il rappresentante dell'Italia nel mondo, fa l'europarlamentare, come diceva Sansonetti, fa l'europarlamentare, è Borghezio, come dire no, Parenzo, cominciare da quando, se vi ricordate, Berlusconi dette del capo a quell'altro, e a questo aggiungiamo, che ne so, Marchionne va negli Stati Uniti per fare gli accordi con Chrysler, e ai tempi c'era anche Opel di mezzo, quindi allora? La Germania, le altre case automobilistiche, i vari amministratori delegati erano accompagnati dai relativi responsabili di governo, lui ci andò da solo. Quasi a dire, meglio che venga da solo che con qualcuno. Bah, che adesso questa è la sua interpretazione, ma lì è la missione di un capo di un'azienda, abbia pazienza, non è che deve essere accompagnato da Berlusconi. Con il loro presidente. Ma chi l'ha detto? Per firmare gli accordi mica ci vanno con i primi ministri o con i ministri. Ma lui, no. Perché l'America ci ha fatto degli investimenti su Chrysler, per quello certo, c'era il presidente americano. No? Perché ci ha messo dei soldi. Ci mancava altro che Berlusconi andasse a sponsorizzare la Fiat, se l'avesse fatto gli sarebbe stato addosso dicendo ecco l'inciuccio Marchiò, ma non è neanche delle sue competenze, che discorso è questo? Cioè, Luca, comunque, tornando a Borghezio, se il livello è quello, effettivamente mi chiedo cosa possa contare l'Italia al Parlamento europeo a Bruxelles nel momento in cui lo stesso interlocutore che dovrebbe essere attivo da questo punto di vista, ho capito, se ne esce con questo partito. Sì, insomma, bisogna vedere anche quanto conta in generale il Parlamento europeo. La ringrazio, caro Luca. 1925 800 24 0024. Mario da Brescia, buonasera. Pronto? Dica. Mario, mi sente o no? Viva voce, sì. Tolga viva voce, si metta in postazione, faccia quello che deve fare, ma parli. Secondo me il caso Battisti è troppo gonfiato, c'è un eccessivo. In che senso? In che senso? Dice Beppe Grillo, per esempio, dopo la casa del cognato di Fini, la morte di Sara, il bunga bunga, l'ennesima notizia di distrazione di massa, importante quanto si vuole, ma meno delle fabbriche che chiudono, della crisi economica. E vabbè, insomma, registriamo. Ha perfettamente ragione, il terrorismo di sinistra era già sconfitto 25 anni fa. Ma qui non fa. Si sta parlando di combattere il terrorismo, mi scusi, per fortuna l'abbiamo combattuto e sconfitto il terrorismo. Si sta parlando di un'altra questione. Secondo me, e non uso i termini che usa lei, il paese farebbe meglio a focalizzare la sua attenzione su problemi che, per esempio, ci sono problemi che riguardano la legalità, che riguardano la mafia, l'andrangheta, la camorra, che sono organizzazioni si sono rafforzate. E allora? E allora? La manifestazione che c'è stata oggi, tutta questa enfasi, il premier che si mette a ricevere le vittime del terrorismo con quel tipo di copertura mediatica, ci riportano una problematica di anni 70. No, però mi scusi, a parte che il premier che si spende, io so bene com'è nata la cosa di Berlusconi, di Torreggiani, eccetera. La Santanchè ha insistito molto perché Berlusconi incontrasse Torreggiani, Berlusconi ha incontrato Torreggiani su sollecitazione della stessa Santanchè. Punto. Non mi pare che quando parlano del Brasile parlano di Stato comunista, il lapsus. Ah, lo Stato comunista, lo Stato comunista, lo voglio far ascoltare, lo Stato comunista di La Russa, sì, via, bravo. sentiamo. Voglio ascoltare anche Borghezio che ridiamo. Beh, della classe dirigente al governo. Sì. Grazie Mario, La Russa. Salve, buonasera. E il governo francese a quel punto, sotto la pressione del governo Berlusconi, ha dovuto concedere l'estradizione, ma fatalità, non so fino a che punto, ma diciamo fatalità, il buon Battisti, buon per modo di dire, è riuscito a fuggire in un paese comunista, o perlomeno di sinistra, quale il Brasile. On me dit que nos vies ne valent pas grand chose, elles passent en un instant comme fanno les roses. On me dit que le temps qui glisse. Beh, insomma, paese comunista il Brasile, no? Dittatura ferrea. Dittatura ferrea. Reale, paese del socialismo reale. Adesso poi ha detto paese di sinistra. Non è che il paese di sinistra, governato dal Partito dei Lavoratori. Insomma, è uguale. Eletto, è uguale, eletto Lula e, con elezioni democratiche, perché nei paesi comunisti non c'erano elezioni democratiche. Vedi come sono aperto oggi, caro. Sì, no, ma infatti, cosa è successo? No, cosa è successo? Sono sempre così. Così moderato. Riccardo da Catania, buonasera. 800-24-00-24. Dopo l'intervallo, Massimo Fini. Ah, un po' di polemica. Sì, un po' di polemica su Berlusconi, che secondo Massimo Fini non può pretendere indietro Battisti perché dice le peggiori nefandezze sulla magistratura. Sì, sì, interessante. Riccardo, prego. Ok, buonasera. Volevo dire la mia su Marchionne. Sì. Non sono d'accordo. Mi tocchi Marchionne che c'ho il busto, eh. Esatto. Volevo dire la mia, non sono d'accordo, capito, che lui ricatta i lavoratori italiani con questo contratto. Per cui lei parla di ricatto, allora, esplicitamente di ricatto. Sì, per me è un ricatto. Un ricatto. E poi penso che anche altre aziende italiane, sì, dopo di lui verranno a ricattare pure gli altri operai. Magari. Allora penso che Marchionne merita questo. Esempio, lui fare i suoi investimenti, sì, per la nuova panda, eccetera, eccetera, magari i lavoratori firmeranno il contratto momentaneamente, sì, e poi dopo che lui avrà fatto i suoi investimenti, magari inizieranno con gli scioperi, così lui non ricatterà più gli italiani. Questo penso. Vabbè, grazie Riccardo, andiamo a sentire la borsa, ci sentiamo fra qualche istante, sempre qui la Zanzara. Parenzo, stai pronto? Torniamo. Prontissimo. Prontissimo. Ma meno male che c'è Carla Bruni. Siamo fatti così, salgono Sarkozy. Che bella Carla Bruni. Se si parla di te, il problema non c'è. Io rido. Io rido. Se la Sarkozy, se la Carla Bruni, anzi non chiamiamola Sarkozy, avesse avuto un'influenza, io non avrei alcun riguardo a censurare fortemente Carla Bruni, che per sua fortuna non è però né ministro né presidente, la moglie del presidente, ma questo ha una sua autonoma capacità di valutazione e di giudizio, non necessariamente non si ripercuote sui rapporti con Sarkozy o con la Francia. Allora, se uno dice che nessun rapporto cambia né con la Francia né col Brasile, allora che protesta a fare? Esatto. Cioè, così, una protesta sterile, che cosa manifesta a fare, posto che le manifestazioni servano a qualcosa? Uno può dire il Brasile sono dei criminali, degli stronzi, eccetera, eccetera. La Francia pure, perché hanno tenuto tutti i terroristi italiani per tanti anni. Dopodiché i rapporti non cambiano. Però, è tutto immodificabile. Così rimane ottimo, la Francia perfetto, tutto dico, bene. Quindi, almeno una cosina piccolina, non so, vogliamo fare un boicottaggio delle noccioline, non so, dei dischi. Vogliamo boicottare la trasmissione, peraltro bellissima, che è ben onda su Radio 1 la sera ogni tanto, che si chiama Brasil, cioè blocchiamo quella, che ne so, per carità, adesso non se la prenderanno. Esatto, si fermano sulle inezie, capito? Cioè adesso dicono boicottiamo i prodotti del Brasile. Che cazzo c'entra i prodotti del Brasile? Arrabbiatevi con Lula, col governo, no? Che l'ha fatto, non con i cittadini che subiscono magari una decisione. Figurati cosa sanno i brasiliani di Cesare Battisti, tutti i problemi che c'hanno. Beh, un anno fa erano a conoscenza della vicenda Battisti, e sì, oltre il 90%. Non si strappano i capelli. Dice cosa ha fatto Lula con Battisti? Sveglia uno. Non credo proprio. I brasiliani avranno dell'altro da fare, i tanga, sì, le cose. Cioè, sì, no, beh, adesso non solo i tanga, la gente, sì, normalmente pensa l'ananas, pensa a campare. Vabbè, 800240024, questa è inconfondibilmente la zanzara. Io tornerei però sulla frase del giorno, direi che non è la frase del giorno, la frase del secolo, sempre sulle note di Va Pensiero, sempre sulle note di Va Pensiero, sempre. No, l'Italia, detto con diciamo il massimo rispetto per tutte le autorità civili, penali, eccetera, eccetera, religiose, civili, sacre, eccetera, non conta un cazzo. Questo è quello che vede l'europarlamentare Borghezio dalla sua visione europea. Non contiamo un cazzo. Sempre detto con tutto il rispetto per le autorità civili, sì, morali, religiose, politiche, eccetera, eccetera. E di un'eleganza. Meraviglioso, meraviglioso. Massimo Fini, buonasera. Buonasera. Come sta? Come sta? Sono sopravvissuto alle feste, già molto. Già molto. A campare, non alle feste, in generale campare già molto. Insomma, eh. Allora, lei ha scritto oggi per il Fatto, a proposito della vicenda Battisti, sostenendo una tesi di cui vogliamo mettere a conoscenza anche i nostri ascoltatori, perché io le dico subito che non sono d'accordo, però è legittimo discutere. Lei dice: se io fossi nei panni delle autorità brasiliane non consegnerei Cesare Battisti all'Italia. Ci può spiegare perché, così velocemente? Ma sì, cioè non è che bisogna incazzarsi con Lula, bisogna incazzarsi con il Presidente del Consiglio, che da anni dice che la magistratura italiana è un covo di eversori, che i giudici sono antropologicamente pazzi, che legittima anche in sedi estere la nostra magistratura. Allora uno Stato anche lontano dai io premetto che secondo me ovviamente, visto che ci sono le sentenze del Tribunale della Repubblica Italiana che condannano Battisti, costui dovrebbe stare in carcere, ma voglio dire che percezione può avere uno Stato estero delle nostre sentenze, della nostra magistratura, quando il Presidente del Consiglio del nostro Paese ha questa percezione della magistratura, al punto che poi si sottrae lui stesso alla magistratura stessa, ai processi con vari espedienti. Quindi... Però, Fili, questo qua presuppone che nella decisione di non estradare Battisti in Italia il Brasile abbia preso in considerazione quello che lei dice, cioè le frasi di Berlusconi, eccetera, eccetera, cioè che sia stato questo un argomento. Naturalmente nella diciamo... Perché le due cose, vuol dire, lo dico in dipietrese, che ci azzecca la questione, cioè il conflitto personale... No, ci azzecca parecchio. Perché... E perché? Vede, l'avvocatura dello Stato sente il bisogno di dire che l'Italia è indiscutibilmente uno Stato democratico, sì, eccetera. Ora, in cui le garanzie per i carcerati e tutto quanto. Ora, una cosa del genere, uno non si sentirebbe in dovere di sottolinearla se non avesse qualche dubbio. Non si direbbe una cosa del genere della Germania, si darebbe per presupposto, per scontato, che la Germania è uno Stato democratico, uno Stato in cui la magistratura è delegittimata, ripeto, non dall'uomo della strada, dal Presidente del Consiglio, evidentemente suscita perplessità e sospetti, giustamente, perché la magistratura è il massimo organo di garanzia delle leggi. Se questo organo di garanzia delle leggi è un'associazione a delinquere o in parte un'associazione a delinquere, questo non è uno Stato di diritto. Questo è il mio ragionamento, molto semplice. No, ma voglio dire, la provocazione ci sta tutta. Non è una provocazione, basta con questa storia delle provocazioni, questo è un ragionamento. Guardi, le provocazioni significa pure, no, all'interno delle provocazioni c'è un ragionamento. Sono stufo di questo fatto che quando dico le cose provoco, no, guardi, io dico un argomento che è questo. No, scusi, un secondo. No, scusi un attimo, Fini, non la volevo mica offendere. No, non è questo, è che sono stufo di questa storia di provocazione. Io dico che se che il dice? Presidente del Consiglio di un paese delegittima, sì, la sua magistratura, anche gli stati esteri hanno diritto di dubitare di questa magistratura, punto. Guardi che all'interno della parola provocazione, quando io parlo di provocazione non dico che all'interno di una provocazione, ma non è una butade, non significa butade la parola provocazione, è all'interno non di... è uno scherzo alla Vauro. Ma no, ma chi sta dicendo che è uno scherzo alla Vauro, per carità, io assolutamente argomento. Poi no, ma... le argomentazioni possono essere sbagliate, no, certo, assolutamente, ma si figuri, ma non se ha visto nella mia definizione di provocazione qualcosa di offensivo, me la ripetono da 25 anni, no, a un certo punto uno si stufa. Bravo, lei ha fatto bene a stufarsi, però io le dico che non c'era nessun intento offensivo quando io ho definito provocazione il suo ragionamento. In ogni caso, io le dico una cosa. Il ragionamento potrebbe avere una sua logica, se però, ripeto, le decisioni del Brasile, di Lula, del ministro della giustizia, eccetera, avessero preso in considerazione quello che Berlusconi pensa della giustizia in Italia, a parte che Berlusconi pensa delle cose della magistratura per quello che lo riguardano. Cioè, Beh, ma questo è gravissimo, anch'io posso avere una percezione assolutamente favorevole alla magistratura di Vipiteno, perché non mi riguarda, io devo avere rispetto di chi? Del mio giudice, è ovvio. Sì, ma voglio dire, il giudizio di Berlusconi sulla magistratura italiana o sulla magistratura che lo ha indagato, su una parte della magistratura, lo sappiamo ed è così da 15 anni. Però, ripeto, che questo abbia a che fare con la decisione del Brasile di non ridarci Battisti è una cosa abbastanza dubbia. Cioè, detto questo, per carità, cioè, può anche essere che non diamo all'estero un'immagine di un paese che ha, in cui ci siano tutte le garanzie, e dunque tra i pretesti che il Brasile può utilizzare ci sia anche questo. Forse No, ne ha usati, è ovvio che per ragioni diplomatiche il Brasile non può dire quello che ho detto io, ma ripeto, rileva dalla stessa affermazione in cui l'avvocatura dello Stato brasiliano sente il dovere di dire che siamo uno Stato democratico, il fatto che dubitano che siamo uno Stato democratico. Mm. Ecco, siamo arrivati a questi punti, cioè raccogliamo quello che abbiamo seminato, voglio dire, cioè, questo è vero, paese... raccogliamo quello che abbiamo seminato, però se non è quello che ha seminato Berlusconi, o non solo quello che ha seminato Berlusconi. No, per carità, io nel pezzo a cui lei fa riferimento faccio l'esempio di un signore, si chiama Adriano Sofri, il quale di 22 anni di carcere ne ha fatti 7, è fuori, scrive sui maggiori giornali italiani di destra e sinistra, è onorato da tutti, è un paese questo che può avere rispetto di se stesso, delle sentenze della sua magistratura, no. Però questo, Fini, dovrebbe rafforzare il ragionamento di chi sostiene che Battisti non ha nulla da temere in Italia, cioè, da un'altra parte, su un piano completamente diverso. Ma, sì, cioè... ma no, ma vedi, la cosa non possono andare sull'arbitrario. Allora, soffri sì perché fa parte dell'intelligenza e che so io, e Battisti no perché è un qualsiasi. Però, siccome noi andiamo avanti su questa strada da anni, i ladri di Tangentopoli non sono ladri di Tangentopoli, sono delle vittime della magistratura fellona e sono diventati giudici, i loro giudici, lei capisce che questo è un paese dove sono saltate tutte le regole, e questo credo, secondo me, è percepito anche all'estero. Tanto più, ripeto, che il Presidente del Consiglio non si limita a fare questi discorsi in Italia, li fa anche in sedi estere. Che cosa può pensare una Merkel, un coro, il lontano Lula? Del funzionamento della nostra magistratura. Del funzionamento della nostra magistratura. Dirà, ma può darsi anche che anche Battisti sia stato vittima di una magistratura fellona o di una parte della magistratura fellona. Ho capito. Ripeto, io non penso affatto questo, no. Penso esattamente il contrario. Penso che la magistratura italiana abbia agito assolutamente secondo le regole, eccetera. Ma siccome viene delegittimata continuamente dalle più alte cariche dello Stato, o dalla più alta carica dello Stato, o dalla più importante carica dello Stato, insieme a tutto il suo partito e una serie di cose, ebbene, può essere benissimo che Lula e compagnia bella, o anche gente del Burkina Faso, dico, vabbè, uno... In Italia io non ce lo mando. Allora, al contrario, lei ha citato Vauro, poi torniamo agli ascoltatori, 800 24 0024. Vauro oggi, in un articolo scritto da Wanda Marra sul Fatto, così spiega la sua adesione nel 2004 all'appello pro Battisti. Tra i firmatari di allora, Vauro risponde mettendo avanti le ragioni dell'amicizia. Io quell'appello non lo firmai. Fu un amico che appose la mia firma, convinto che avrei aderito. Beh, sì. Insomma, questo è abbastanza curioso. Ma questo non mi deresponsabilizza, tanto più che poi non ritirai la firma sempre per rispetto a quell'amico. Ma che vuol dire uno firma per rispetto a un amico? Sì, non capisco, Vauro. E poi concludo con un giudizio tanto lapidario quanto durissimo. Riguardo all'impunità, questo governo non ha niente da insegnare a nessuno. Ora, francamente, secondo me qui c'è del benaltrismo, cioè si sfugge a una questione molto semplice. Io non sto dicendo a Fini, in questo caso lo sto dicendo a Bauro. Cosa c'entra la questione dell'impunità, eccetera, con il merito della vicenda Battisti? Cioè, sono due cose completamente diverse. Uno dovrebbe dire è a favore o è contro, e nel caso in cui è contrario all'estradizione, anche motivare i motivi per cui è contrario all'estradizione. Sì, ma vede, la legge è valida se è uguale per tutti. Se non è uguale per tutti, sì, come questo paese dimostra ogni giorno. Ma ogni caso è diverso, però. Ogni caso è diverso, però. Cioè, non si può paragonare la vicenda. Le decisioni della magistratura, sì, dovrebbero essere legge per chiunque. Cioè, qualcuno, Fini, mi scusi, su questo c'è un'esagerazione. Qualcuno fa paragoni tra la vicenda giudiziaria del Presidente del Consiglio e la vicenda giudiziaria di Battisti. È una cosa terribile. Un paragone del genere è fuori dalla grazia di Dio. Non è fuori dalla grazia di Dio, perché i reati di sangue non sono necessariamente peggiori di altri reati che sono più sofisticati. I reati vanno colpiti comunque. Sì, d'accordo, i reati sono reati e lo sappiamo, però abbia pazienza, non si possono paragonare due cose, non volevo dire più pesanti o meno pesanti, anche se i reati di sangue, ammazzare qualcuno è certamente una cosa più pesante rispetto alla corruzione. Però prenda un caso molto semplice: se io scippo una vecchietta per strada è un bruttissimo fatto ed è un reato e cosa, ma se io faccio una bancarotta fraudolenta io danneggio non una vecchietta ma mille vecchiette, sì. Cioè c'è anche qui una percezione, si sta arrivando a un doppio diritto, in realtà un diritto per lo signori, per i quali restano sostanzialmente nella maggioranza dei casi impuniti, sì, e per i reati da strada invece la galera subito, cioè per gli stupratori presunti, perché devono essere anche loro, sì, presunti, perché la presunzione vale per tutti, buttare le chiavi, metterli in galera, eccetera. Non è così. No, che per i cosiddetti colletti bianchi ci siano pene molto più basse rispetto ad altri paesi. Ma sono più bene più bassi, c'è tutta una difesa, diciamo, corporativa, dei giornali, della stampa, di quelli che li appoggiano politicamente, eccetera, eccetera, per cui c'è questi in linea di massima la fanno franca o comunque non sono considerati dei delinquenti. Ho capito, Fini, però tutti questi discorsi sono molto interessanti. Io non riesco a capire però il motivo per cui se ne parla applicandoli o comunque intorno al caso Battisti. Io ho detto solo che un paese estero ha diritto di avere dei dubbi sulla magistratura italiana dal momento che il suo massimo rappresentante ha a sua volta dei dubbi. Però io le dico una cosa, che il Brasile ha deciso solo per questioni politiche, di politica interna, di amicizia con la Francia. Ragionare all'italiana. No, perché all'italiana? È ragionare allora secondo quello che io conosco della vicenda. Non è una questione di destra o di sinistra. Ma nemmeno secondo me è una questione di destra. Io ho detto le stesse cose di Sofri. Sì, figuriamoci. Come di Battisti. Non me ne importa niente né della destra, certo, né della, certo, sinistra. Certo. Ecco, dico che invece in Italia, appunto, sempre si fa una questione o politica, se quello di destra e sinistra, per cui non so, va o andrà a firmare o non firmare, a seconda che il tipo sia della sua parte politica, certo, o meno. Non è questa la mia storia, non è il mio modo di ragionare. Ma non ho attribuito questo modo di ragionare. Sono sicuro che se ci fosse una mobilitazione per far tornare, che ne so, Delfo Zorzi, terrorista di destra in Italia, Bauro sarebbe il primo a firmare. Bene, Fini, se vuole può restare con noi fino alle 8. Stefano da Livorno, buonasera. Buonasera a lei, dottorissimo. Dica, direttorissimo. Direttore mi offendo, direttorissimo mi piace di più. Io sul caso Battisti volevo dire semplicemente un po' questo. Non voglio entrare nel merito se era colpevole o non colpevole, perché sono delle sentenze. Innanzitutto, lei è con il viva voce, caro Stefano. Lei è con il viva voce, no? Come mette il viva voce? No, è con il viva voce, no. Comunque, dica. Con l'auricolare normale. Dica. Ecco, l'auricolare, appunto. Aspetta, lo tolgo magari. Meglio, sì. Sente meglio? Sì, dica pure. Dunque, io dicevo questo: se Battisti è colpevole come criminale, giustamente deve andare in prigione. Evidentemente a monte c'è stato forse degli errori tecnici per richiedere questa estradizione, perché se è semplicemente un aspetto politico, diventa un po' difficile da buttare giù la cosa, perché no, mi scusi Stefano, ma... non ho capito niente. Secondo lei ci sono dei motivi che non sono solo politici, ma sono anche di merito, di questioni giuridiche che riguardano l'ordinamento italiano, gli anni di piombo, cose di questo tipo? No, io non voglio dire che è stato condannato una persona innocente. Se è stato condannato, evidentemente avevano gli elementi per. Allora, qual è il suo ragionamento? Mi faccia capire. Non... Cioè, probabilmente nel momento in cui si è chiesto questa estradizione a questi, sia alla Francia che al Brasile, sì, qualcosa non ha funzionato. Cioè, c'è stata una mancanza di comunicazione, dove non si è chiesto, magari, non, forse ci doveva impostare la richiesta non come un personaggio avallando una tesi politica, ma semplicemente Stefano, perché era un delinquente. Sì, Stefano, guardi, questa storia che Battisti sia un delinquente comune è una baggianata colossale. La sento ripetere ogni tanto come se uno lo sostenesse per aggravare la posizione di Battisti. Non è un terrorista, non è uno che ha fatto degli omicidi per la politica, ma è un delinquente di strada. Non è vero, a parte che la distinzione tra un omicida di strada, diciamo tra un omicida comune e un omicida per motivi politici è una distinzione assurda. Cioè, ripeto, ma l'ho detto centinaia di volte, chi ammazza per rubare o chi ammazza per un ideale politico, per me pari sono, anzi se proprio uno deve andare a fare una differenza, quando uno ammazza per rubare ammazzerebbe chiunque, quando uno invece ammazza per un motivo politico sceglie chi uccidere, dunque in teoria è ancora più grave. Parenzo? Assolutamente, è assolutamente così, ma stiamo scherzando. Fini, anche per lei non c'è distinzione? Ma non lo so, bisogna vedere, sa, le democrazie sono nate su bagni di sangue, hanno ammazzato un mucchio di persone, era lecito o non era lecito? Non le democrazie liberali, Sì, le democrazie liberali, la rivoluzione francese, quelle sono nate con la rivoluzione liberale, la rivoluzione inglese. Quindi è molto difficile, è chiaro che tutto dipende da cosa. Le Brigate Rosse erano gruppi isolati, di terroristi isolati, e quindi i loro delitti sono rimasti giustamente dei delitti. Se avessero vinto la partita, in galera ci saremmo io, lei e qualcun altro. Sì, su questo non c'è dubbio, però per fortuna non hanno vinto, insomma. Sì, però voglio dire, non facciamoci l'idea che appunto tutto sia avvenuto, anche ciò che consideriamo positivo, come un ballo delle diciottenni, ripeto. No, ma anche le democrazie sono nate certamente nel sangue, per carità, non nessuno. Tranne le rivoluzioni liberali che nascono senza il sangue, come in Inghilterra, ad esempio, non c'è stato nessun sangue in Inghilterra, una delle più antiche democrazie del mondo. No, voglio dire, Fini voleva dire che le democrazie, sì, qualche volta nascono sulle scene, certo, di una guerra oppure per combattere, certo, una dittatura, per carità. Certo. Cioè, non stiamo parlando di questo, stiamo parlando di un reato che è l'omicidio in una democrazia, naturalmente, a democrazia vigente. Un omicidio per uccidere durante una rapina o per uccidere perché uno è un magistrato e sta facendo delle inchieste, per me pari sono, non è che è più nobile uccidere qualcuno per motivi politici. Stefano da Milano, introdotto però da questo. No, l'Italia, detto con diciamo il massimo rispetto per tutte le autorità civili, penali, eccetera eccetera, religiose, civili, sacre eccetera, non conta un cazzo. Questo è quello che vede l'europarlamentare Borghetto dalla sua visione europea, non contiamo un cazzo. Fini, lei è d'accordo con Borghezio che la dice così papale alla Borghezio? Ma sì, dice, ma non contiamo niente, ma per altre ragioni, perché siamo sempre... Anche perché c'è Borghezio, suggeriva qualche ascoltatore? Ma può darsi, ma perché siamo sempre al servizio di qualcuno, siamo al servizio degli americani anche dopo l'89, quando non c'era nessun bisogno. Siamo in Afghanistan per fare un favore agli americani, poi gli americani non ci restituiscono questi favori. È ovvio che se tu ti fai servo poi nessuno ti calcola. Questa è la storia purtroppo dell'Italia, direi degli ultimi 30 anni, perché l'Italia, e qui bisogna fare ammende, bisogna rimpiangere tutto, l'Italia democristiana per esempio aveva una politica estera che era una politica estera in una situazione molto più difficile, perché per esempio Andreotti con i paesi arabo-musulmani riuscire a tenere una politica di appeasement, di amicizia, diciamo, nonostante... Nonostante noi per lei fossi... positiva? Per lei positiva? Io ho la bandiera di Israele dietro la mia scrivania, per cui... Vabbè, allora se uno c'ha la bandiera di questo, di quello... Io mi sento più sicuro con gli americani che non possiamo più parlare. Fini, io ho anche il busto di Marchionne a casa, per cui sono un tipo un po' particolare. Ecco, vabbè. Noi questo mondo ce l'abbiamo sull'uscio di casa, quindi è ovvio... che la nostra politica non può essere la politica degli americani che ce l'hanno a 10.000 km di distanza. Beh, abbiamo interessi diversi. Prendiamo la questione Iran. Sì. Noi siamo il primo partner commerciale dell'Iran, ma perché dobbiamo avere la stessa politica americana che aggredisce l'Iran perché sta facendo il nucleare civile, che come se aggredissero noi perché se riapriamo Caorso. Il Pacifico democratico Iran, naturalmente. Ma non è... Ma vede, questa storia per cui le democrazie sono pacifiche e gli altri sono tutti dei criminali, no, a me non funziona. Io non ho mica detto che sono criminali, però. Chi è in Afghanistan? Chi è andato in Iraq? Chi ha i piani per aggredire l'Iran anche con l'atomica? Al netto della per carità degli errori commessi eccetera, errori ed orrori, non è che in Iraq ed in Afghanistan ci fossero come dire delle democrazie coi fiori, insomma. Ma non è che torturavano la gente e la mettevano nel tritacarne. Comunque l'idea che tutto il mondo debba essere democratico è una contraddizione in termini, è un'idea totalitaria. Questo può darsi, ma ogni paese ha diritto di svilupparsi o di non svilupparsi, di evoluire o non evoluire secondo le proprie tradizioni e vocazioni. Andare a mettere la democrazia a forza in un paese che ha tutt'altre tradizioni, tutt'altra storia, tutt'altro senso della leadership in Afghanistan, facendo tra le altre cose 60.000 morti, il 40% dei ricoverati sono dati dell'ONU, non miei, sono bambini causati nella grande maggioranza dalle bombe americane, ecco, allora questo noi non ci scandalizza. No, ma perché poi ci scandalizza? E allora che ha ammazzato il marito, e allora liberate Sakineh, non lapidate Sakineh, ma Sakineh libera subito, mi sembra, è come dire... uno che dicesse Franzoni libera subito, no, bello, un po' eccessivo, però su Sakineh come sfondo una porta aperta, soprattutto sul non nel merito della questione, ma sulla mobilitazione che c'è stata. La ringrazio, Fini, molto gentile. Arrivederci. Padania, l'Italia non conta un cazzo. Sempre detto con rispetto, Parezzi. sempre col massimo rispetto. Stefano, chi era? Stefano da Milano? Dica. Buonasera, dottor Cruciani. Grazie per... Lei ha 50 secondi, Stefano, dopo che semmai riprende, però 50 secondi prima. No, volevo dire che... fin quando a livello politico sarà rappresentato da personaggi come Borghezio e i suoi simili, leghisti soprattutto, noi non potremo mai contare più di tanto nel resto del mondo. Ma veramente Borghezio vuole fare contare la Padania, non l'Italia, insomma, che è una cosa diversa. Diciamo che la Padania non esiste se non nella ideologia stupida dei leghisti. Ho capito. No. Niente più. Poi per il fatto che noi non contiamo più all'estero, io mi ricordo di personaggi tipo Craxi che riuscivano a dare un aspetto migliore dell'Italia. Ma adesso all'estero. Non è tutta questa nostalgia per la politica estera oppure per l'immagine dell'Italia quando c'era Craxi o quando c'era Andreotti, francamente mi sembra eccessivo. Ma abbiamo i telegiornali tra pochissimo, caro Parenzo, 800 24 00 24, a tra poco. Apri di nostalgia della Zanzara Party, caro Parenzo. Quando la sento, ai. I Ridillo, mitici, dobbiamo sempre ricordarli. 800240024, che dici? Minzolini? Digiuno o no? Ne possiamo fare? Sì, la 7 sicuro, però la 7 Mentana, sai. Mentolo, la 7, Mentuccia. Siccome i titoli della 7 durano 3 minuti, certo. Sono un po' più lunghi per registrarli. Sono dei temi, sono dei pezzi. Cioè, infatti, basterebbero i titoli e poi i servizi manco. Si può pure evitare, insomma. Ma il che ha una sua. Una sua logica, vabbè. Una sua sintassi. Vogliamo sentire Minzolini? E sentiamo Minzolo. Sentiamo. Caso Battisti, sit-in in piazza in molte città contro il no all'estradizione. Il premier incontratore Gianni d'Italia presenta il ricorso. I numeri per andare avanti, fin legislatura, nessun dissidio con Tremonti, Bossi frena sul voto. Fiat Napolitano serve il dialogo più costruttivo, ci attendono prove impegnative necessarie a iniziativa europea dopo strage cristiani. La strage dei cristiani in Egitto, trovata una testa dai tratti asiatici, forse il kamikaze Bagnasco, pregare per vittime e persecutori. Polemiche per nuove assunzioni nella sanità in Sicilia, spende per i dipendenti pubblici 17 volte più della Lombardia. Allarme influenza A nel Regno Unito, 40 le vittime, in Italia sono 3 i ceppi virali, il picco è previsto per fine gennaio, gli esperti consigliano di vaccinarsi, resta il migliore mezzo per la prevenzione. Beh, però tutto si può dire, caro Parenzo, il titolo è 17 volte più della Lombardia, le spese della Sicilia per i dipendenti pubblici, non era male, non era male. Non è male, ma ovviamente lo fanno perché oggi in Sicilia c'è una maggioranza diversa, non c'è il PDL che governa, c'è questo inciuccio mostruoso. Ah, tu dici che lo fanno per quello? Beh, quello. Io sono un po' troppo, sono un po' malizioso, dai, su, devo dire. Non esagerare, sì. Cioè, secondo sono te malizioso. Il titolo sui dipendenti pubblici in Sicilia del telegiornale, sì. Sì. Principale della RAI, cioè il telegiornale di Minzolini, eccetera, eccetera, sì. Lo fanno per screditare l'immagine della Sicilia governata da Lombardo. Governata da un super inciuccio. Da un super inciuccio. Dirlo, da un super inciuccio, dove Lombardo ha buttato fuori dalla sua maggioranza il PDL, ha fatto un accordo tecnico con il PD, ha rifatto una giunta e quindi un vero ribaltone. Quei sì, lì sì, c'è stato in Sicilia un vero ribaltone e quindi gli danno addosso. Ma giusto per carità, in questo caso danno una notizia verissima. Però questa è la dietrologia. Lo stato puro, cioè secondo te il titolo è stretto la Lega, ricordando giustamente che in Lombardia i numeri sono diversi, ma lo fanno con una logica precisa. La notizia oggi c'è, la enfatizzano così perché oggi si tratta di bastonare Lombardo, che è il traditore. Questa è una lettura, dimmi che sono pazzo, folle. No, ma per carità, non io dico anche malizioso, ma lo dico con, anzi, ma è legittimo che lo facciano, cioè voglio dire, non siccome la notizia c'è tutta e noi tutti la critichiamo, gli danno questa enfasi. Minzolini, il TG1 sceglie di dargli questa enfasi perché comunque insomma, Lombardo oggi non è più non è un governatore del centrodestra, no? Io so che oggi ci sono un paio di servizi sulla stampa e su Repubblica in cui si fa il conteggio, come sai, l'abbiamo detto prima, per quella trasmissione, dei nuovi dipendenti locali, pubblici, che verranno assunti tra poco in Sicilia, e dunque credo che ci siano anche delle notizie da questo punto di vista. Tu dici che non l'avrebbero messa con la stessa enfasi se ci fosse stata la maggioranza di centrodestra lì. Io non credo. Non credo, perché voglio dire, il fatto che la Sicilia da anni, da sempre, abbia questo metodo di assunzioni molto facile, questo welfare della corruzione, questo welfare sociale estremo, per cui cos'è che hai detto, il dato prima era inquietante, 5 dipendenti su 5 cittadini, 5.000 nuove assunzioni della sanità, 23.000 se si sblocca un'altra leggina, un siciliano su 5 lavorerà nel settore pubblico. Ecco, vergogna. Pazzesca, faccio come Cremaschi, vergogna. Cremaschi, rivolto ad altri sindacalisti che hanno firmato l'accordo. Vi dovete vergognare. Salice, non stare lì così, mettiti comodo. Bene, pronto Mentana, titoli della 7. State fermi un paio di minuti, ci vogliono. 3-4 minuti. Una sorta di mettete sul caffè intanto. Mettete il caffè o la pasta, o l'acqua della pasta. Aspettate un attimo, via. Bossi in cadore con il ministro dell'economia rassicura il premier, Tremonti non farà scherzi a Berlusconi, tanto noi portiamo a casa il federalismo, poi vediamo, e aggiunge, oggi c'è il sole quindi non prevedo le elezioni, ma domani. I dissidi con Tremonti e la Lega? sono solo chiacchiere al vento. Fa eco Berlusconi che garantisce avere i voti per finire la legislatura. Il paese di tutto ha bisogno tranne che di un voto anticipato. Lo dica Bossi. Contro la mancata estradizione Battisti, sit-in bipartisan davanti all'ambasciata del Brasile. Manifestano i politici, ma pochi cittadini. E la protesta funziona come una sorta di staffetta. Prima la maggioranza e poi le opposizioni, separati. Carla Bruni nel mirino del presidente di un'associazione di vittime del terrorismo. Mi ha confidato di aver supplicato Lula perché non rimandasse Battisti in Italia. Fini denuncia per diffamazione e tentata estorsione un sito che ha parlato della escort di Reggio Emilia che ha raccontato di incontri a pagamento col presidente della Camera. Notizia che fu rilanciata da Belpietro sul Libero. Vogliamo difendere l'istituzione, dicono gli avvocati di Fini. Le tariffe RC auto, che in Italia costano il doppio che all'estero, si possono abbassare fino al 20%. A dirlo questa volta non sono solo i consumatori, ma il governo e l'ISVAP, che è l'autorità che presidia il mercato delle assicurazioni. Calendario politicamente scorretto nel Padovano, lo ha fatto la provincia di centrodestra cancellando le feste del 25 aprile e del 1 maggio. E ovviamente un sindaco ha protestato e ha rimandato indietro i calendari. Bene, 26 minuti, questa è la Zanzara, 800 24 00 24. Direi, mentre Cicchitto dice che c'è stata un'influenza francese negativa sulla vicenda Battisti, di far sentire Berlusconi di oggi. Berlusconi di oggi, direi, sulla questione politica. Oggi c'era un Berlusconi che a un certo punto ha incontrato all'aeroporto di Linate, in una saletta, il sì. Torreggiani. Ed era vestito, non so se hai visto le immagini. Sì, con una specie di bomber. No, come sì, una specie di giacca a vento militare, forse russa. Quella di Putin, sì, sì, è quella che gli. Che non so se sia che... quella di Putin. Camicia azzurra o blu scura sotto, e poi stivaletti anche là militari, una cosa pazzesca. Sì, quando si veste così io la adoro. Meglio che quei doppio petti grigini. Sì, devo dire che quel bomber, quel piumino faceva un po' effetto, lo rendeva sì. Particolarmente grasso. Perché era lì. Un ottantenne col piumino, meraviglioso. Ma cosa? Perché adesso ce l'hai con questa no, cosa? No, ma lo adoro perché è meraviglioso, perché io anche vorrei che mio nonno si vestisse così, invece si veste da nonno, no? E invece lui si veste in questo modo molto giovanile, sportivo, e non lo dico con ironia, lo dico divertito. Certo, Di Pietro davanti all'ambasciata del Brasile. Terrorismo, e in questo senso, con tanta responsabilità, veniamo a dire all'ambasciatore del Brasile che dica al suo governo, al neopresidente, che ha preso una grossa cantonata. Allora, devo dire la verità, Parenzo, che ho trovato particolarmente positiva la presenza di Di Pietro davanti all'ambasciata, ripeto, sempre mettendo la tara alle manifestazioni. Ed è sbagliato, e ha sbagliato chi lo ha aggredito oggi con parole tipo il terrorista sei tu, eccetera, eccetera. Sì, credo che la presenza di Di Pietro sia un elemento di novità. Se n'è fregato della sponsorizzazione della manifestazione da parte del movimento di Daniela Santanchè, è andato lì, ha detto la sua all'ambasciatore brasiliano, quello che doveva fare. Ma ecco, dovrebbe essere in un paese civile, hai detto tu bene all'inizio della trasmissione, in un paese civile le idee superano chi propone la cosa. Cioè non è che se la destra propone una cosa che è positiva tu non puoi andare in piazza con loro. Cioè è un segno di maturità quello di Pietro, e di stupidità di chi invece non, del PD e a sinistra non c'è andato, proprio per ideologia. È la malattia dell'ideologia questa. E in questo caso, quando ci sono di mezzo poi quattro morti, è così. Fa ancora più schifo. Giuseppe da Latina, buonasera. Buonasera. Dica. Giuseppe, dunque, chiuda la radio, però spenga la radio, altrimenti sentiamo triplo. Sì. Vorrei intervenire sul caso Battisti e in particolare su questa interpretazione che ha proposto Massimo Fini. Sì. Dunque, secondo me Fini coglie un elemento di verità, nel senso che c'è un atteggiamento di delegittimazione della magistratura, però questo non mi sembra né che possa essere una causa della decisione del Brasile, né che si possa invocare in qualche modo come una giustificazione di un eventuale non l'estradizione di Battisti, cioè mi sembra che anche riconoscere questa tendenza che c'è a dare pene più lievi a chi magari ha situazioni di potere rispetto ai normali cittadini non sia una giustificazione per la non applicazione della legge quando se ne dà il caso. Cioè non si può dire siccome per la persona X la legge non è stata applicata, secondo noi, allora si può non applicare la persona Y. Mi sembra che questo sia un principio che disgrega lo Stato. No, Giuseppe, sono d'accordo con lei, mi sembra un ragionamento inattaccabile il suo. Ognuno può pensarla come vuole. Abbiamo la pubblicità, poi torniamo con Stefano, la provincia di Roma, Giovanni da Pescara, Claudio da Brescia. Eccoci, 20:11, c'è Berlusconi che dice: dove? Lega e Tremonti, chiacchiera al vento, fra poco inizia questa cena, la cena degli ossi, a Calalzo se non sbaglio, no? Sì, indicatore. Berlusconi. Presidente, in questi giorni alcuni giornali parlano di dissidi interni alla maggioranza, in particolare tra lei e una parte della Lega, e ancora tra lei e Tremonti. Allora, cosa c'è di vero? Non c'è nulla di vero. Sono chiacchiere al vento totalmente inventate. Questa maggioranza, questo governo sono solidi e capaci. Il neo direttore del Riformista, Stefano Cappellini, se Tremonti rivelasse le sue intenzioni, scoppia la bomba atomica. Sentite. È chiaro che Tremonti ha un problema, non può esplicitare le sue ambizioni perché sa che questo costerebbe una guerra atomica all'interno del centrodestra, non vuole seguire il percorso di Fini, spera in qualche modo di diventare il successore per inerzia delle cose, per corso naturale. Crespi, il tuo amico Crespi. Chi ha detto? Tremonti si prepara a fottere Berlusconi. Ale. Per sei mesi Berlusconi, in modo paranoico, si è occupato dell'attacco di Fini, che era secondo me una ricerca di spazio legittimo, e nello scontro con Fini lui non ci ha guadagnato. Il risultato è che il terzo stava lavorando per fotterlo, tra i due, in termini metaforici. Tra i due litiganti. Sempre in termini metaforici, col massimo rispetto, detto col massimo rispetto. E poi Vespa, questo è da ieri, a Cortina, Prometto. Incontra fatto, Inverno, Prometto. Eccetera, eccetera. E Berlusconi, metta le palle sul tavolo, proprio questo dice: metta le palle sul Vespa, tavolo. Bruno Vespa, adesso lo sentirai, faccia no. Le riforme. Vespa. Berlusconi, se campa ancora due anni politicamente, deve avere il coraggio di mettere le palle sul tavolo e di fare le grandi riforme, altrimenti, siccome il problema della quarta settimana non ce l'ha, è meglio che se ne vada. O fa veramente la rivoluzione, o fa veramente le riforme, o se no deve dare senso al suo governo. Ma è sorprendente, ma dove l'ha detto? Ma guarda che è sorprendente questa cosa. Adesso fra poco lo faccio risentire. Dopo il traffico, lo faccio risentire. Un rivoluzionario. Beh, hai visto con quanta decisione, poi con quanto è meglio che se ne vada Berlusconi. Chissà ma che dirà. Il segno della croce, chissà, dopo aver detto una parola. Ma tu sei convinto ancora che Vespa sia una sorta di protuberanza di Berlusconi? Veramente tu pensi? No, mai, no, io penso che sia un termometro politico. Cioè è un termometro perfetto per capire, cioè vuol dire che qui la febbre del Berlusconi è alla fine, perché se anche un uomo come Vespa, è un termometro perfetto di quello che avviene nel paese, degli equilibri di maggioranza e opposizione. Mm. Quindi vuol dire che qualcosa si sta muovendo, non è un berlusconiano, è un governativo, che è una roba molto più sublime, molto più alta. Cioè, berlusconiani è una parte, invece essere governativo, quello va bene sempre. Cioè, essere governativo. Giovanni da Pescara, buonasera. Sì, buonasera. Dica. Mi sente? La sento, dica pure. Buonasera, dottor Cruciani. Senta, io per l'intervento prima del signor Fini, praticamente lui ha detto che il governo brasiliano praticamente non ha ridato Battisti indietro perché Berlusconi, la polizia, la magistratura italiana, di qua e di là, no? Io penso che lui l'avrebbe dovuto fare, penso io, dopo mi spieghi lei. Penso che lui la cosa dovrebbe mandare indietro per una questione di rispetto verso i familiari delle vittime. Vabbè, questo qua è scontato. Lasciare Berlusconi. Però prima ha detto questa storia qua. Dopo però ha detto anche che ci stanno dei terroristi, ex terroristi che se ne vanno a spasso, che scrivono sul giornale, di qua e di là. Giusto? Ha detto sì, così, sì. No? Quindi praticamente si è contraddetto da solo. ho capito male io. No, guardi, anch'io ho fatto la stessa obiezione a Fini, però lui dice siccome l'immagine che diamo è di un paese molto non particolarmente forte, che non difende la propria magistratura, che non difende le proprie istituzioni, sia a livello politico, sia poi nell'applicazione delle pene, allora la fiducia nella nostra giustizia all'estero è molto bassa. Però io ripeto, sono tutti discorsi che si possono fare, però sfuggono da quelle che sono le reali motivazioni per le quali Lula, che sono molto più... non sono fatte di grandi ideali, di pensieri così filosofici, di ragionamenti così sofisticati. È una cosa molto semplice. Lula ha fottuto l'Italia perché l'Italia conta meno della Francia. Adesso, insomma, siccome l'ho ripetuto per la centesima volta, punto a capo traffico. Se campa ancora 2 anni politicamente, deve avere il coraggio di mettere le palle sul tavolo e di fare le grandi riforme, altrimenti, siccome il problema della quarta settimana non ce l'ha, è meglio che se ne vada. O fa veramente la rivoluzione, o fa veramente le riforme, o se no deve dare senso al suo governo. Invece, come abbiamo ascoltato ieri sera, non ha il problema della quarta settimana, ma da domani cominceremo a richiamarlo, perché qui urge il Versace alle Maldive. Chi non ha il problema della quarta settimana è certamente il mitico Versace. Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que poema. È la cosa più linda che ho già vi passare. L'atollo di Ari nell'isola di Aturuga, molto bella, molto tranquilla, giornata bellissima, e uno dei nostri amici ha pescato ben 30 kg di pesce, quindi siamo tranquilli. Perché tutto è tan triste. Un pochino costa, non è una vacanza, però si può facilmente arrivare, perché qui si va dai 3 stelle ai 5 stelle. No, Aturuga è un 4 stelle, perché perché Maldive è un... c'è poi il Fortesolo, c'è Canur e tante altre cose, ma a me Aturuga la preferisco perché quando viene alle Maldive non viene negli eccessi, qui è proprio bellissimo il villaggio, molto, però non serve. Siamo molto bene, c'è un mare bellissimo, si fa sport, si nuota, si prende il sole, si sta molto bene. Piedi nudi, si lasciano le scarpe quando si arriva e si rimettono quando si parte. Sono coi piedi nell'acqua, perché sono praticamente nel mio bungalow a 15 metri dal bagnasciuga. Dovreste sentire molto bene adesso il rumore dell'acqua. Lo sentite? Ecco, c'è una serata stupenda, stellatissima, piena di stelle. Eccoci! Rumore dell'acqua, grandissimo. 800 24 00 24, avete sentito? 30 kg di pesce, riascoltarmi, è ancora più bella. Perché il suo amico ha pescato 30 kg di pesce. 30, ha 30. Detto 30 kg, ha detto. Francesco, provincia chili. Di Foggia, no, 30 mi sembra. Mi e sembra che cosa no, 30 kg, infatti mi sembra un po' esagerato. Francesco forse voleva dire 3, forse voleva dire 3. Sì, una cosa pazzesca, lui dice 30 kg, meraviglioso. Francesco, provincia di Foggia. Buonasera direttorissimo, bentornato. Grazie, dica pure. È bello risentirla. E niente, stavo pensando alle frasi del giornalista Fini, che come i suoi compagni di merende del Fatto Quotidiano hanno delle eleganti elucubrazioni su come stabilire quali sono le verità così che a noi italiani sono nascoste. Però è un'opinione, insomma, lei parte subito in quarta, i compagni di merende, tutto, cioè, no, per carità, non... lei fa dell'ironia, va benissimo, però insomma è un'opinione, no, di Fini, non è che ci vuole scusi, non è che ha la verità in tasca, nessuno ha la verità in tasca, è un'opinione di Fini, ed è innegabile questo, no? Viva Dio che sia così, però non partire dal presupposto che abbiamo di fronte un presidente che di provenienza, anche se non a livello battisti, ma in gioventù, insomma, ha avuto dei momenti anche leggermente rivoluzionari, se vogliamo sotto l'aspetto ideologico, potrebbe anche essere la chiave di lettura del fatto no, che... ma certamente vuol dire, il passato di Lula qualche influenza l'ha pure avuta, non c'è dubbio. D'altra parte il candidato conviene, no? Il Mi candidato conviene. Della destra, sì, no, ma certamente il candidato della destra alla presidenza del Brasile, Serra, che viene da un altro tipo di cultura, aveva promesso l'estradizione di Battisti. E c'è pure questo aspetto che dobbiamo fare, ma non è che Battisti ha scelto il Brasile a caso, eh. Sapeva benissimo dove andava a pescare, dove avrebbe ottenuto degli appoggi, da chi sarebbe stato appoggiato e tutto. Insomma, le cose sono molto chiare per chi le vuole vedere. Cioè, Battisti, forse non solo lui, non sceglie a caso il Brasile. Grazie. Marco da Roma, buonasera. Sì, buonasera a lei e ai suoi ospiti. Guardi, io ho sentito la trasmissione per pochi minuti e sono veramente sconvolto essenzialmente per un semplice motivo, perché il linguaggio usato da lei e dai suoi ospiti. Le ripeto brevemente le parole che ho sentito, sì. Lula ha fottuto l'Italia. No, l'Italia non conta un cazzo. No, ma questo lo dice Borghezio, abbia pazienza. L'Italia non conta un cazzo, lo dice Borghezio. Ma non si devono ripetere, ma se siamo in un paese che sta andando alla deriva, se siamo dei barbari, se c'è un imbarbarimento globale della nostra società, è proprio da queste cose. Scusi, che Marco, abbia pazienza, io non sono il guaritore dalle... posto che c'è un imbarbarimento, e io non so se c'è un imbarbarimento come lei dice, io non sono il guaritore di questo imbarbarimento, non sono il medico, mi dispiace, ma non sono il medico, Marco. Se lei pensa che io sia il medico, ha sbagliato persone o forse ha sbagliato trasmissione. Usando delle parole più appropriate. Infatti io non ho mai ripetuto le parole di Borghezio. Io non ho mai ripetuto le parole di Borghezio. Queste parole le ho sentite dalla sua parola. No, lei si sbaglia. Io risento la trasmissione. No, la risenta lei, perché io ho detto quando volevo ripetere le parole di Borghezio, io ho semplicemente detto Borghezio sostiene che l'Italia non conta nulla. Non ho mai detto l'Italia non conta un C, puntini puntini. L'ho detto adesso perché lei mi ha invitato al ragionamento. Non lo faccio dire ai suoi ospiti, allora. Queste parole è un segno proprio. Vabbè, lo dica lei, perché lo dico ai suoi ospiti? Lei è un mio ospite come gli altri, conta esattamente come un politico, come qualcun altro. Secondo lei le parole che ha detto Borghezio non sono da dire e soprattutto non sono da rimandare. Invece io ci gioco sopra. Questa è la mia. Che cosa vuole? È un invito a lei come giornalista, ma anche a tutti i suoi colleghi, anche della stampa, perché sui giornali è un fiorire di parolacce. Non vedo perché. Non voglio fare il ma è un'esagerazione, Marco, non c'è nessun fiorire di parolacce, abbia pazienza. Dire che Lula ha fottuto l'Italia sarà pure un'esagerazione, ma fa parte del linguaggio quotidiano, ha fregato l'Italia, ha ingannato l'Italia, ma non è una cosa, cioè non è una parolaccia. Ma che significa peghiamoci a tutto? Sono parolacce, vabbè, ma io accetto la critica, per carità, Marco, insomma, siamo qui anche per accettare critiche, per prendere i sassi, quello che vuole. Però insomma, mi sembra francamente esagerato dire che la frase Lula ha fottuto l'Italia sia qualcosa di volgare. Adesso, insomma, fottere politicamente qualcuno mi sembra che sia un'espressione che si può sdoganare tranquillamente, non so, magari mi sbaglio, non lo so. Marco, cosa da giù? Raffinate di dire certi concetti. Ma io non sono raffinato, non voglio essere raffinato, è una scelta. Ma che è un giornalista, lei parla a milioni di persone. Ma che vuol dire? Ma ha maggior ragione, ma perché lei c'ha degli obblighi morali nei confronti. Ma io non ho nessun obbligo. Ma io non ho nessun obbligo morale, Marco. Se lei mi attribuisce gli obblighi morali, casca male con me. Va bene. Ma va benissimo che lei mi attribuisca questo tipo di responsabilità. Io non la sento questa responsabilità. Io cerco di parlare anche a un pubblico molto, molto vasto. Vabbè, infatti molte cose le trattengo, non è che sono proprio esplicito al 100%, altrimenti mi caccerebbero domani. Va bene. Prego Marco, ma guardi che possiamo proseguire su questa discussione. A me, per carità, non è che dispiace essere criticato, tutt'altro. C'è Berlusconi che dice se vince il Milan ne vince il paese, era in tuta con i giocatori del Milan, l'ho perso, una cosa fantastica di oggi. Anche questo è volgare, Marco? No. Non è questione di essere volgare, ma perché bisogna semplificare, parlare a schemi, parlare a slogan? Cioè siamo gente che ha fatto l'università, che ha studiato, abbiamo una capacità di linguaggio, sappiamo parlare meglio. Questo significa esprimere meglio i concetti, meno barbari, non si può parlare meglio? Sì, è una cosa più semplice. Ma nessuno ha detto che non si può parlare meglio, però bisogna anche entrare nel merito. Cosa critica lei? Vabbè, le parole di Borghezio l'ho capito, le ha pronunciate Borghezio, secondo ma lei no, io non devo tornarci sopra. Lei e i suoi ospiti hanno usato parecchie parolacce nel corso della trasmissione, l'ho sentito soltanto per 5 minuti, ho sentito una sfilza di parolacce. No, vabbè, lei è stato particolarmente sfortunato, sì. Però perché è stato particolarmente sfortunato, perché magari è capitato in mezzo a una mia frase su Lula, su una di Borghezio pure, scusi, abbiamo sentito questa cosa di Vespa, no? Giustamente Parenzo me lo fa notare. Vespa che dice Berlusconi deve mettere le palle sul tavolo, deve mettere le palle sul tavolo, è una volgarità? Ma certo, ma non si rende conto, ma lei parla così. Mi sembra di sentire Moretti. Io non ci parlo così a mio figlio, a mia moglie non parlo così, ai miei colleghi di lavoro non parlo così. Figuriamoci se parlo così agli italiani o agli ascoltatori, ma ci rendiamo conto? Ma possiamo dire che non ci rendiamo conto di come parliamo male? Non lo so, può darsi che abbia ragione. Ma Moretti, io non parlo così ai miei colleghi, se lo sento alla radio, alla televisione, se lo leggo sui giornali, allora mi sento legittimato, autorizzato a parlare così alle persone che lavorano con noi e che lavorano con me, che collaborano con me, ma io non lo voglio fare, io voglio reagire a tutto questo. Sì, però mi scusi, io credo. Sembra, io... guarda, veramente sembra, sì, per radio ascoltatore, specificissimo, sembra Nanni Moretti del film Ecce Bombo. E le parole hanno un senso. Cominciamo, no, guardi, che non la stiamo prendendo, di... Marco, non la stiamo prendendo in giro, No, figuriamoci, però... No, mi dispiace che la gente non se ne renda conto, come se non, come se questo accettare un degrado anche così, anche linguistico, che si può facilissimamente evitare. Non è fico dire le parolacce, perché deve essere fico? Perché deve essere una cosa proprio, no, ma quando è gratuito e quando lo si fa continuamente, lei può avere ragione. Ci sono dei momenti, non è che io ogni giorno dico Lula ha fottuto Berlusconi, Lula ha fottuto Berlusconi, Lula ha fottuto. Ma che cosa significa? Ma che messaggio è? Ma che associazione mentale è? Ma che messaggio è? No, che lei adesso sta entrando nel merito, adesso sta entrando nel merito del messaggio, eccetera. Io le volevo semplicemente dire che non è che ogni giorno uso questa espressione, l'ho usata una volta e poi tra l'altro ci credo a questa espressione, perché io l'ho sentita soltanto questa sera. Ecco, appunto, no, lei ha sentito per 5 minuti, è stato particolarmente sfortunato. Va bene, grazie Marco, molto gentile. Grazie a lei, arrivederci. Marina da Venezia, Marina da Venezia, buonasera. Dottor Crociani, buonasera, buonasera anche a Parenzo. Ascolta, buonasera, io sono un'umilissima persona, cittadina. Vabbè, non si però butti quando... giù, umilissima, è una persona normale. Nel senso che, no, sento tutti qua. Dice la parolaccia? Dice la parolaccia? No, ma infatti, secondo me... Dice la parolaccia o no lei? Sì, dico sì. Le parolacce, perché... 10 Ave Maria, si confessi, alla zanzara, si confessi alla zanzara, sto scherzando, non voglio... No, infatti ci sono delle parolacce che si vogliono in quel momento perché rendono appieno il significato di quello che si prova dentro. Ecco, per cui voglio dire, le parolacce ci stanno a volte, senza però entrare nello scurile. Ascolta, io le volevo dire una cosa, ha sentito prima Fini che parlava, no? Allora, da persona proprio, va bene, io non mi butto giù, però effettivamente non sono efferrata, non sono brava come voi, però io dico, allora, c'è stata una sentenza che mi sembra fosse antecedente al governo Berlusconi. Sì. Questa, ecco. Beh, che cosa c'entra Berlusconi? Cioè, voglio dire, se i magistrati o il tribunale del Brasile ha visionato tutta sta cosa, no? Cosa c'entra Berlusconi? No, che magari secondo me nulla, ma secondo il ragionamento di Fini, diciamo che i politici brasiliani, il presidente Lula ha preso in considerazione anche la situazione della magistratura oggi in Italia, secondo le parole del Presidente del Consiglio. Andiamo a sentire la borsa, caro Parenzo, poi ultima mezz'ora della zanzara, ma siamo sempre molto molto carichi. 800 24 00 24. Eccoci, 800 24 00 24. Caro Parenzo, ultima mezz'ora di trasmissione. Ecco. Claudio Fava, buonasera. Buonasera, buonasera. Come sta? Grande Fava. Europarlamentare, coordinatore della Segreteria Nazionale di Sinistra, Ecologia e Libertà. Sì. Ho appena rivisto un suo film. Che film? Di cui lui è stato sceneggiatore, veramente. Che film hai rivisto? I 100 passi, di cui lui ha scritto la sceneggiatura. Ma che hai fatto? Hai passato le vacanze in questo modo? Per carità. No, l'altro giorno ero qui a casa e... Hai rivisto i 100 passi, un'altra volta. Sì. L'ho rivisto tanti anni fa, l'ho rivisto. No, perché si può... si dimenticano. No, assolutamente. Senta Fava, ma ho visto che lei, ho letto che ha una posizione piuttosto, secondo me, curiosa sulla vicenda di Battisti. Cioè lei dice, siccome è successo diversi anni fa, ormai sono passati 25 anni, insomma, chiederlo indietro è un errore, o sbaglio? No, non è così. Sbaglio. Non è questo, assolutamente. No, allora mi faccio l'interferenza. Ho detto esattamente il contrario, ho detto che è giusto chiedere tradizione, perché se si lascia nell'opinione altrui l'interpretazione di una sentenza passata in giudicato, che qualcuno può ritenere a torto ragione, ma è una sua opinione, che sia processo politico e non una condanna per un omicidio, a quel punto salta tutto, il sistema, come dire, della credibilità della giustizia per questo e per ogni altro reato. C'è un'altra cosa, fermo cosa? Restando che è giusto chiedere estradizione ed è un atto dovuto da parte di qualsiasi governo in presenza di una sentenza passata in giudicato concederla, che occorre anche valutare di fronte a vicende che riguardano fatti accaduti 20-25 anni fa, ma non nel caso di Battisti, in tutti i casi, se abbia ancora senso poi l'applicazione di una pena che interviene nella vita di un uomo un quarto di secolo dopo. Questo, diciamo, è un problema etico più complessivo che non riguarda però il fatto che l'estradizione... No, non riguarda l'estradizione, lei è favorevole all'estradizione di Battisti? Ho detto sì. Sì, è favorevole, però... debba essere concessa. A quel punto io da legislatore mi porrei il problema per lui e per molti altri che senso abbia una giustizia che assume più i contorni della vendetta quando scatta in una vita sostanzialmente. Beh, però se uno si è sottratto a questa pena fuggendo, eccetera, eccetera, non mi pare che si possa parlare di vendetta. Infatti l'istituto della prescrizione esiste come materia giuridica proprio perché anche se qualcuno si è sottratto c'è anche un elemento di... di senso comune, di buonsenso, di verità nel pretendere che l'orologio della storia si fermi, si riattivi 20, 25, 30 anni dopo. Cioè mi faccio capire, se fosse per lei, io la metto un po' terra a terra, fosse per lei Battisti potrebbe... Le parlo di cose che conosco un po' meglio, se accadesse che c'è un mafioso che viene... Sì. Oggi arrestato per un crimine che ha commesso 30 anni fa e nel frattempo ovviamente non ha più continuato a delinquere, io mi porrei il problema della credibilità di una pena che riguarda la vita di un uomo. Cioè non dovrebbe andare in carcere secondo lei? Ho detto mi pongo il problema. Appunto, però se si pone il problema poi dà pure una soluzione. Mi pongo il problema e la soluzione la assumo con altri, altrimenti non c'è più il problema. No, ma la soluzione secondo lei? Di certezze. Io credo che questo è un punto che un paese civile debba porsi, cioè di come non chiudere i conti con una storia, ma di come fare in modo che la giustizia abbia un tempo che riconosca anche i limiti della vita. Dunque, secondo lei anche per reati gravi ci vorrebbe un tempo di prescrizione? Mettere in galera una persona che ha compiuto un omicidio 30 anni dopo, mi metto dalla parte della persona offesa o del parente della persona offesa. Io la considererei comunque un atto, come dire, di facile barbare, nel senso che 30 anni dopo, adesso non è il caso di Battisti che è un signore nel pieno del suo vigore fisico, ma questo potrebbe accadere anche a una persona che di anni ne ha 60, 70, 75, si può andare in galera. Io la vivrei come un atto di vendetta, ma questo non ha a che fare con la giustizia, con l'estradizione, ha a che fare con il rapporto tra l'uomo e la giustizia. No, ma questo qua l'ho capito perfettamente, poi si può arrivare anche a una conclusione, secondo lei anche per delitti efferati, per omicidi, eccetera, eccetera, ci dovrebbe essere una sorta di prescrizione, cioè se per qualsiasi motivo una persona si trova a scontare una pena 30 anni dopo quei fatti, 25-30 anni dopo adesso, è sostanzialmente cambiata, 30 anni dopo si chiama vendetta, non si chiama più pena. Sì, dipende, se lui prende una persona che ha ammazzato a 20 anni in un tempo, in una stagione, in un contesto completamente diverso e 30 anni dopo un signore di mezza età che nel frattempo ha costruito vita in forme, modi e affetti completamente diversi, dice hai questo conto da pagare. Sul piano formale è giusto, io mi dico sul piano dell'etica sostanziale è una cosa che ha un senso o diventa soltanto l'accanimento un po' vendicativo di uno Stato che vuole palesare la propria incorruttibilità? Io un altro esempio, però mi scusi, adesso torno, vengo da te, Parenzo, però dunque, se Battisti fosse stato estradato dal Brasile e messo in carcere in Italia, secondo lei si sarebbe trattato di una vendetta dello Stato italiano? Mi sbaglio? No, non è così. Però non possiamo prescindere dal caso Battisti. La sintesi di ragionamento è materia ancora più complicata del ragionamento stesso. Sto dicendo che Battisti deve essere estradato e poi applicata la pena. Dico che a questo punto, per lui e per tutti quelli che si trovano come in sue condizioni, possono anche essere criminali mafiosi, non necessariamente brigatisti di società. Magari anche quelli che hanno ucciso suo padre, insomma. Anche, assolutamente. Infatti, non a caso io le sto parlando di questo, gliene parlo a sangue freddo, tranquillo. Se mi avessero detto, adesso, visto che siamo messo i piedi nel piatto, se mi avessero detto adesso, sono passati 27 anni, c'è un signore che 27 anni fa ha ammazzato suo padre, poi ha cambiato vita. Adesso l'abbiamo beccato, gli odiamo l'ergastolo, guarda, non mi darebbe alcun beneficio, la considererei un atto di impotenza da parte dello Stato, perché per 27 anni siamo riusciti a ottenere che ci fosse giustizia e nei confronti di una persona che non ha nulla a che vedere, a meno che quello non abbia continuato a fare il mestiere che faceva, allora stiamo parlando di tutt'altro. Però insomma ci sono delle cose che secondo me sono imprescrittibili. Comunque Parenzo, cioè omicidi, cose di questo tipo. Ma infatti per questo sto dicendo, mi pongo il problema, non voglio dare soluzioni. Come dice lei, ci sono anche crimini particolarmente gravi per i quali questo ragionamento, facciamo l'esempio adesso dei crimini commessi dei nazisti in Italia, sono convinto che un gerarca nazista o un ufficiale nazista di 90 anni oggi debba pagare, poi in galera non ci andrà, però questo contrario alle convenzioni internazionali, che finisca in galera ma deve essere giudicato e condannato. Naturalmente in galera non ci andrà perché in nessun paese del mondo è previsto che qualcuno a 90 anni finisca in galera. Sul fatto che meriti di essere giudicato, su questo non ci sono. Per esempio un ascoltatore che fa una bella provocazione: quindi se un criminale nazista fosse scappato, addirittura Hitler, si fosse rifatto una vita, oggi non dovrebbe pagare delle morti causate? No, esattamente il contrario. Sì, no, ma è una domanda. Sì. Deve essere processato, deve pagare. Poi naturalmente se lei mi chiede prendiamo un vecchio e lo mettiamo in galera, le rispondo di no, come risponde di no l'ordinamento giudiziario italiano, quello tedesco, quello francese. In quel caso quello che conta è l'affermazione del principio, cioè l'affermazione di una verità, di una colpevolezza, di una reità. Sì, è chiaro. Parenzo, che volevi dire? No, ma infatti io l'esempio che volevo fare è esattamente quello di Priske, che è stato condannato 12 anni fa, quando già ne aveva 75 di anni, agli arresti domiciliari per reati gravissimi dopo una lunga latitanza, e quindi non lo trovo accanimento. Quindi infatti il ragionamento, capisco, Fava dice mi pongo una domanda, e io no, nel caso di Priske non mi pongo neanche la domanda, cioè mi do la risposta, sono contento che stia ai domiciliari a scontare gli ultimi anni della sua vita. Sono contento anch'io, sto parlando. Però mi scusi Fava, lei non si stupisce del fatto? Sono contento anch'io che Priske sia ai domiciliari. Però mi scusi, al di là del fatto del coinvolgimento di alcuni esponenti del governo, delle manifestazioni, non voglio dare un giudizio sulle manifestazioni perché lei l'ha già dato eccetera, però non la sorprende un po' che, diciamo così, non dico la battaglia, ma l'interessamento per la questione dell'estradizione di Battisti si sia risolta alla fine in qualcosa che riguarda solamente, diciamo, l'ambiente culturale e politico del centrodestra? Io me ne dispiace perché, sai, io ho scritto. Fatto perché la considero una cosa, premesso che io sono loro che ritengono che l'estradizione sia dovuta, considero questa battaglia del centrodestra una cosa assai strumentale. Perché? Non so se poi questo passaggio è finito nelle dichiarazioni di oggi mie, una cosa meno strumentale se il centrodestra fosse sceso in piazza anche quando una opinabile decisione del governo americano ha cancellato la colpevolezza e quindi l'estradizione per i piloti americani che hanno massacrato, tagliando le cavi del CERMIS, 74 persone. In quel caso mi sembra che si sia registrato da ambienti politici italiani, in Partito dell'Ambiente e il centrodestra, un rispettoso ossequioso. Però lì sono gli Stati Uniti che giudicano i propri cittadini, sono due casi completamente diversi. Assolutamente no, c'era una richiesta di estradizione, sì, d'accordo, certo, commesso in Italia, e sì, il governo americano ha negato. Ho capito, ma quelli erano cittadini americani, sì, che americani, gli Stati Uniti hanno deciso di tenersi, diciamo, no? Che le istituzioni militari e politiche americane. Non è questo, perché se Battisti avesse ottenuto nel frattempo la cittadinanza brasiliana, lei pensa che oggi non ci sarebbe questa protesta? Si direbbe quella è un fatto che riguarda il rapporto tra Battisti e quel paese, ma il rapporto tra Battisti e la sua colpa, che deve essere scontato in Italia perché il reato è stato consumato in Italia, non è in discussione. Io non accetto che dei soldati americani, solo perché hanno il passaporto americano, consumano un reato in Italia. Sì, d'accordo, però oggettivamente sono due casi molto diversi, cioè è in ballo sempre la questione dell'estradizione, non c'è dubbio. 74 vite umane, sì, mi permetta, no, io ma non le considererei meno gravi. No, ma non sto dicendo che sono più gravi o meno gravi, sto dicendo che considero un atto di arroganza e di impunità. Infatti il governo americano, di fronte, come dire, a un fatto anche certo, non è che ci fossero dubbi. Lei sa benissimo che le istituzioni militari in tutto il mondo, e sto parlando anche di paesi che non sono solo gli Stati Uniti, la stessa Italia, la Francia, eccetera, sono molto gelose dei propri appartenenti. Sì, ma è una gelosia che io considero un atto di arroganza e impunità. Sì, va bene, però. Venga, se arriva dal governo italiano nei confronti di un militare italiano che ha consumato un reato in un altro paese, lo giudica allo stesso modo. Su questo non... Senta, una cosa sola, secondo diversi, per parlare proprio di un altro argomento, secondo molti esponenti sindacali, l'atteggiamento di Marchionne è un atteggiamento antidemocratico. Ho detto un bel pezzo di gallino su questo. Sì, ecco, no, però al di là del pezzo di gallino, perché qui è una questione fondamentale, perché o si dice che c'è una legittima contrapposizione di interessi che possono essere, come dire, in cui uno può prevalere rispetto agli altri, e poi anche una consultazione tra lavoratori in cui una parte dei lavoratori possono prevalere su altri lavoratori secondo regole democratiche, oppure si dice che Marchionne è fuori dall'ordinamento, fuori dalla Costituzione, eccetera, eccetera. Su questo punto io però vorrei dare una parola chiara. Perché la prima ipotesi che le fa è quella che rifiuta Marchionne. Quella che non dice c'è una legittima consultazione, c'è una... Ma come? Le consultazioni ci saranno, come no? Come no? Ci saranno le consultazioni? Ha detto che se il referendum si perde si fa come si fa lui, oppure... E beh, quella è la scelta di un'impresa, quella è la scelta di un'impresa, la libera scelta di un'impresa. Cioè, che può dire... Marchionne fa un ricatto, secondo lei? Secondo lei un ricatto? Assolutamente, è il momento in cui... Però il ricatto è un reato, un ricatto è un reato, bisogna provare... Ricatto non è un reato, il ricatto è una... Ricatto politico, dice lei, ricatto politico. Ma sì, ma un ricatto morale, quando Marchionne dice, mi dispiace, ma se il referendum lo vincono quelli che non... Fa i suoi interessi, certo, fa i suoi interessi. Marchionne me la porto. Sì. Vabbè ragazzi, se questi sono i suoi interessi, siamo... regrediti ad una legge della giungla. Perché la legge della giungla? Parlare di... referendum sindacale, che senso ha parlare di una civile interlocuzione fra impresa e lavoro nel momento in cui l'imprenditore dice siccome faccio i miei interessi o si fa così o smonto e me ne vado, cioè c'è un limite anche al buon gusto e anche al buon gusto delle parole, no? Sì, ho capito, può essere una cosa detta in maniera troppo esplicita, però viva Dio, cioè rispetto ad altri riti del passato, c'è uno che parla chiaramente dei riti del passato. Io dico soltanto c'è una consultazione, sì. Se la maggioranza dei lavoratori dice noi questo accordo non lo vogliamo, e non è che uno può... e Marchionne dice io chiudo Mirafiori e la rimonto in Puglia, cos'è? E la modernità, innovazione, un nuovo rito felice, una liturgia democratica, o è un atto comunque padronale di imposizione di una volontà a prescindere da quello che hanno deciso. Poi naturalmente per chiudere un posto lei sa bene che non è che si chiude in due secondi baracca e burattini in 4 e 4 8, ci sono tutte delle procedure piuttosto complicate. Comunque è una discussione che voglio riprendere. Marchionne, spero che non sia così facile per lui. No. Grazie Fa, voglio riprendere questa discussione su Marchionne, molto interessante, no? Parenzo, è un ricatto oppure no? Lui dice ricatto, in verità è una questione, è, come dire, Marchionne può... Aspetta, fermo, traffico. Siamo qui, caro Parenzo, 20:48, volata finale. Vorrei fare riascoltare una delle notizie del giorno riguardo la vicenda di Battisti, il nostro amico Berardi, che oggi durante Sky TG24 pomeriggio, scatenato, ha fatto questa rivelazione. Sentite. Tutto il nocciolo della questione è proprio Carla Bruni, che è intervenuta, queste sono le sue parole, naturalmente io non ho testimoni perché eravamo in uno studio suo privato, è intervenuta presso il presidente Lula chiedendo un favore personale di proteggere Battisti perché lei si sentiva in obbligo. Vabbè, domani lo ospiteremo, in realtà potevamo chiamarlo anche stasera per farci raccontare il faccia a faccia con Carla Bruni, che tipo di reazione ha avuto, se fa. Però domani con calma, con molta calma, tanto oggi avevamo già la sua voce. Sì. Dino, okay. Provincia di Piacenza. Sì, compagno Marchionne. Marchionne adesso, non ti preoccupare. Dino, dica. Eccomi qua, buonasera, ormai sono arrivato quasi a Cremona. Allora, vi stavo ascoltando con molto interesse e, a proposito di Marchionne, ho seguito un po' tutto. È vero, c'è chi abusa del simbolo, diciamo, del fallo in modo esplicito. Per esempio? Stavo parlando appunto, mi sto riferendo al fatto che qualcuno ha usato il linguaggio con la parola C, puntini, puntini, la parola poi Borghetti. Sì. Ecco. O come quelli che dicono che Lula ha fottuto l'Italia, ecco, quelli usano esplicitamente, è un discorso, è chiaro, però, insomma, avete reso l'idea. Io invece, a proposito di Marchionne, vorrei dire che anche lui sta facendo la stessa cosa, ma sta facendocelo capire in modo molto diverso, nel senso che Marchionne sta facendo delle ottime partite di giro, a mio modesto parere. Marchionne sta sfruttando un momento storico che è unico negli ultimi vent'anni. Io non credo di aver mai visto un'azienda come Fiat avere tra virgolette il coltello dalla parte del manico come ce l'ha oggi, il momento in cui lavorare è diventato la cosa principale per moltissime famiglie italiane che non riescono ad arrivare alla quarta settimana. Quindi mi collego anche a questa questione, peraltro. L'unica cosa che mi preoccupa, e non è secondo me di sicurezza. Poi sulla storia di quelli che non arrivano alla quarta settimana bisognerebbe intavolare una discussione. Comunque. Lo so, è vero, no, io sto cercando di. Ha ragione. Comunque, lui sta sfruttando il momento, fa bene dal punto di vista. Allora, come imprenditore dal punto di vista tecnico, sta facendo l'unica cosa che poteva fare perché ha le carte in mano per poterlo fare in questo momento. Non sono d'accordo sul fatto che lui non punti sul suo esercito, perché un generale poi alla fine deve contare anche sull'esercito. Voglio dire, gli operai servono la Fiat perché è alla fine è l'operaio quello che fa il mezzo. Allora? Non è il vero il problema che noi ci troveremo ad affrontare è questo. Primo, in ogni caso Marchionne non sta scommettendo a lungo termine, perché comunque sia nel momento in cui il mercato dovesse riprendersi e si dovesse ricominciare a vendere veramente un gran volume di vetture e Marchionne potrebbe aver bisogno degli operai o di una certa professionalità, perché i mercati chiederanno anche. Però Dino, scusi un attimo, andiamo al sodo, cioè, cosa vuole? Io non ho ancora capito. Marchionne non è antidemocratico, sta facendo la sua partita, certo. E ha fatto una scommessa a breve termine, perché non è una scommessa a lungo termine, e peraltro sa che comunque ha una convenienza anche lui a restare in Italia, comunque, certo. La cassa integrazione che qui c'è, all'estero non c'è. Cioè, va bene Dino, grazie. Giusto da Pescara, buonasera, veloce, perché dobbiamo sentire anche gli altri, dica. Senta, io per quanto riguarda Battisti, volevo dire una cosa, perché mi interessava, parlava della dichiarazione di Vespa. Sì. Volevo dire che secondo me il governo sul caso di Battisti non ha mai affrontato seriamente la problematica, perché in questi ultimi due anni a me risulta che Berlusconi ha incontrato Lula almeno quattro volte. Tre volte o quattro volte, adesso non mi ricordo bene. In queste tre o quattro occasioni non ha mai affrontato, non ha mai detto al presidente Lula che per noi era fondamentale che Battisti venisse estradato. Vabbè, questa è un'interpretazione. Ora, su Vespa cosa voleva dire? Vabbè, io su Vespa volevo dire un'altra cosa. Io sono rimasto molto meravigliato da questa dichiarazione che ha fatto stasera, che ho sentito stasera di Vespa, perché secondo me Parenzo ha perfettamente ragione. Vespa è un giornalista molto governativo. Io mi ricordo quando lui... E dunque fiuta il cambio di vento. Bravo, bene, grazie, giusto, lei è stato chiarissimo. Basta così, è chiarissimo. Brunella da Roma, buonasera. Sì, buonasera. Dica. La ringrazio per avermi ricontattata, anche se mancano pochi minuti alla fine. Mi volevo riallacciare. Si sente malissimo, però, Brunella, dobbiamo richiamarla ancora. Maurizio, dalla provincia di Roma. Buonasera. Buonasera. Mi sente? La sento. Sì, dunque io volevo dire questo, che in Italia spesso si creano grandi problemi su questioni di principio e in certi casi dovrebbe prevalere più la ragion di Stato. Cioè? Il fatto è che Lula probabilmente non ha fiducia nella giustizia italiana perché l'Italia è l'unico paese al mondo democratico nel quale si celebra un processo in contumacia, cosa che... A parte che non è vero che è l'unico paese al mondo. In contumacia? No, non è vero, ci sono altri paesi e comunque la validità dei processi in contumacia è stata ribadita da moltissime sentenze europee. Maurizio, cioè non è che se si processa qualcuno in contumacia è una cosa che è fuori dal mondo, che è fuori dal diritto, eccetera. Ci sono alcuni paesi che non ammettono un rito di questo tipo, paesi che invece lo ammettono. Non è che quelli che non lo ammettono sono fuori dal mondo, perché altrimenti l'Europa ci avrebbe già condannato ampiamente. Invece anche i ricorsi di Battisti su questo tema, cioè sui processi in contumacia, sono stati battuti in sede europea. Non è perché l'Europa è così, all'Europa è più simpatica l'Italia rispetto agli avvocati di Battisti, è perché su questa storia dei processi in contumacia si dicono un sacco di stupidaggini, se non vogliamo essere volgari come ci suggeriva il signore prima. Ripeto, i processi in contumacia sono perfettamente legittimi. Maurizio. Da un punto di vista legale, ma secondo me da un punto di vista di principio non lo sono. Secondo lei no, secondo l'Europa sì, cosa vuole credere? Sì, sì, c'è un altro aspetto. E qual è? E l'altro aspetto è il seguente: l'Italia non è abbastanza, dovrebbe essere un po' più pragmatica. Troppo clamore si solleva su singole situazioni. Noi abbiamo un problema economico e siamo in corso di finanziamenti di appalti per circa 13 miliardi di euro con il Brasile. Io capisco le vittime, capisco i parenti delle vittime, ma qualche volta il pragmatismo e la ragion di Stato dovrebbero prevalere. Ma guardi che stanno prevalendo alla grande, Maurizio. Cioè, il punto è proprio questo, no, Parenzo? Cioè, mi sembra che nessuno voglia... Berlusconi l'ha detto molto chiaramente, i rapporti col Brasile resteranno identici. La Santa anche protestava e lui diceva no, non c'è nessun problema, col Brasile come Stato, non abbiamo nessun problema, e con chi ce l'hai il problema allora? Su che cosa dovremmo agire, se non vogliamo agire sulla leva economica, non vogliamo agire sugli appalti, non vogliamo agire su sull'aspetto morale, l'unico punto su cui possiamo agire. Ho capito, agire, ma Lula se ne frega, se ne fotte, per dirla contro l'ascoltatore di prima. No, per me va bene perché enfatizza, cioè l'usare certe espressioni è un enfatizzare dei concetti che danno, si dà risalto a dei concetti in modo molto migliore. Ho capito, Maurizio, grazie. Un altro Maurizio da Siracusa, buonasera, per concludere, Maurizio, deve essere molto veloce, grazie. Molto veloce, cercherò di, avrei voluto dire una cosa sola, ma prendo in balzo l'osservazione di Parenzo riguardo agli assunti nella pubblica amministrazione in Sicilia, che probabilmente fa questa visione. Io posso dire che abito in Sicilia e vi assicuro che la pubblica amministrazione è proprio andata malissimo, che ogni volta che vai in un ufficio non trovi una persona competente. La maggior parte incompetenti, gli devi 17 volte in più della Lombardia. Venite qua a rendervene conto, anziché avere questa miopia e dire certo, siccome mi insorino, eccetera eccetera. Questa è una cosa che purtroppo devo censurare. Adesso al netto del titolo del TG1, è la sostanza è quella che i dipendenti pubblici locali della Sicilia sono 17 volte di più di quelli della Lombardia. Con questo devo concludere, Maurizio. E se vuole... permetti di dire che sono 18 volte più inutili di quelli della Lombardia. Forse, questo lo dice lei. A domani, ciao Parenzo. Au revoir. Ciao. La Zanzara, il titolo più di merda del mondo. Soltanto tu potevi inventarti un titolo del cazzo come quello. Soltanto tu. Ricordati che devi morire. Come? Ricordati che devi morire. Va bene. Ricordati che devi morire. Sì, no, mo me la segni proprio. C'è una cosa... Non vi preoccupare. La Zanzara.